a Mario, te conviene rifiutare, non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo, ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera, e questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No. E vengo anch'io. No, tu no. Perché? Perché no? Noi abbiamo dovuto chiedere a nostri amici, a nostri colleghi di rinunciare ad essere presenti nelle liste elettorali perché una magistratura politicizzata li aveva attaccati e questo fatto divulgato dai media era diventato qualcosa che poteva diminuire il nostro consenso. Perché? Perché no? E avevamo deciso di lasciare fuori chi avesse più di 65 anni, l'unico vecchio, l'unico vegliardo dovrei essere io. E poi invece ce n'è un altro, ma che rappresenta la storia non solo del nostro partito ma di un grande partito occidentale e democratico, quindi, ed è il nostro Colucci, Ciccio Colucci, che noi abbiamo voluto ancora ricandidare. E poi veniamo a lui, cari ascoltatori della Zanzara, il grande protagonista della giornata. Addirittura Vittorio Sgarbi lo dipinge come un gigante della politica rispetto agli altri del PDL, che lui dipinge come servi. Cosentino, Nicola Cosentino, l'uomo accusato di essere il referente politico del clan dei Casalesi, il quale oggi in conferenza stampa, prima annullata per la ressa, un po' alla napoletana, diciamo la verità, di fronte alle telecamere riuniti in un albergo, non si offendono i signori napoletani, ma non ce l'ho con loro, e dice alcune cose. Soprattutto attacca Alfano. Sentite Alfano. Questo rientra sempre nella solita costruzione, nella solita macchina del fango, nel per forza creare il mostro. Si è detto che mi sono litigato e quasi sono venuto alle mani con Angelino Alfano. Assolutamente no, non ho niente rispetto alla categoria dei perdenti di successo. Alfano, un perdente di successo, e poi su Bocchino, che vuoi? Mi sono litigato, ha detto. Ah, tu hai notato il mi sono litigato. Meraviglioso, mi sono litigato. Senti questa cosa invece. Oh, americana, Nico americana. Senti sta cosa. Bocchino, primo referente dei Casalesi, poi specifica i Casalesi buoni, però intanto la stoccata l'ha data, Gli ha detto. Che qua l'unico referente casalese vero in Parlamento è stato l'onorevole Bocchino, perché è lui che è stato eletto parlamentare per la prima volta nel 1996 nel collegio di Casal di Principe. Ovviamente io quando parlo di riferimento dei casalesi mi riferisco alla parte buona che c'è della stragrande maggioranza dei cittadini casalesi, ma le sue fortune sono iniziate da là. E poi Caldoro, che è presidente della regione Campania, povero Caldoro, grazie a lui, dice Cosentino, dunque stia zitto, non dica che sono impresentabile, non dica che il partito deve fare piazza pulita. Per quanto riguarda il presidente Caldoro, l'unica spinta che io ricordo è quella che gli ho dato organizzando a lui un consenso e farlo diventare presidente della regione. E come avete sentito, dietro c'è una clac, caro Parenzo. Una clac che accompagna Cosentino, giustamente appoggiato dai suoi, defenestrato da Berlusconi. Che poi diciamo la verità: Berlusconi dice che è stata la magistratura politicizzata a fare fuori Cosentino. No, no. Ma è stato lui in persona. E perché? Lo ha spiegato chiaramente nelle parole, nell'intervento che abbiamo sentito prima. Cioè, per avere più consenso, pare che fuori Dell'Utri e fuori Cosentino, lasciamo perdere Milanese e Pava, che non li conosce nessuno, li conosciamo io e te. E, due punti. due punti. Ha guadagnato sembra, due punti con l'esclusione. Sembra. Sembra. Ma Berlusconi è come quegli imperatori romani che quando c'è il Colosseo tirano sul pollice. Vivo o morto, vivo o morto. E qui li ha fatti fuori tutti. Vengo anch'io, no tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Sono gente che è in Parlamento che sono psichiatricamente un problema perché fanno un lavoro che non sanno, pigiano un tasto che gli dicono di pigiare e la loro professionalità è quella di andare in televisione nei talk show e fare interviste con voi e nei giornali. Fuori Cosentino e dentro forse, se verrà eletta nella circoscrizione estero, un grande personaggio, cari miei. Noi l'attendiamo qui in Italia, a Milano, a Roma, un personaggio strepitoso, una showgirl argentina, ci mancava solo questa, grande sponsorizzata dal mitico senatore Castelli, senatore del PDL, eletto in quella circoscrizione estera, che io cancellerei tutte le circoscrizioni estere, tutto tabula rasa. Non ha senso. Voto italiano all'estero fu una follia di Tremaglia, ma lasciamo perdere questo argomento. Potrebbe entrare in Parlamento una che si chiama, com'è che si chiama? Ileana Calabrò, la quale il nome, Ileana. Sì, anche molto bella la signorina. Dunque sicuramente Ileana sarà attenzionata. Sarà attenzione a Caselli, senatore Caselli, non Castelli, senatore Caselli. Sponsorizza questa signora, si chiama Ileana Calabrò, che in un programma in Sud America simulò un orgasmo. No, ma cosa ha spolverato, signor Cruciani? Scusi, ma come mai? Senti. Tira parlo la cara. No, ma non era un orgasmo. Io la voglio. Ma non era un orgasmo. Certo, la voglio in Parlamento. Sì, ho capito. Non era un orgasmo, Sì. Era sì. Lei che stava correndo per consegnare le liste. Ah, tu dici in Sud America. Sì, perché Cosentino ieri è scappato, sarebbe scappato con le liste. E questo, sentite, no, veramente. Che non è vero, lui ha negato. Senti la corsa affannosa. Fatemi risentire solo quell'inizio. Oddio, questo è fissato. Adesso, non è l'orgasmo. Adesso è talmente. Si è talmente arrapato. Fammelo risentire. Che vuole risentire. Fammelo risentire. No, non è abituato. È lei che corre. È lei che corre a consegnare le liste. E corre, sta correndo così alle liste. Sì. Basta adesso, basta. È pur sempre basta. Radio 24. No, ma non c'entra niente in questo. Beh, insomma, basta, perché sennò non sei incontrollabile. Cioè, a te ti basta sentire queste cose per farti vedere. Perché ti piace più il basta di Giannino a te di questo? No, ma è sempre meglio il basta di Giannino. Basta! Vengo anch'io! La battuta del giorno, anzi sono due le battute del giorno, purtroppo tutte del centrodestra oggi, Poi c'è un'altra follia di Albertini, dopo quella sui gay, anche una su Vendola. Sì, ma che è successo a Gabriele? Scusa. È impazzito Coppa di Vendola. La nostra amica Gabriele. Bondi, la nostra gente vuole facce nuove. A parte 4-5, avete ricandidato tutti gli stessi, tutti... Questo chi l'ha detto? Bondi. Ha candidato la moglie, la fidanzata. Aspetta. Chiunque vada fuori da queste stanze, parli con la gente, col taxista, con il commerciante... I nostri elettori ci dicono, vogliamo un rinnovamento, vogliamo un cambiamento, vogliamo facce nuove, vogliamo una pulizia morale, vogliamo le riforme. D'accordo, ma scusi un po'. Facce nuove. Però dovrebbe rivolgersi a se stesso. Facce cioè lui nuove. E la compagna, candidati di candidati in Piemonte a proposito di facce nuove. Aspetta. Alfano, Capezzone, facce nuove, candidati al Senato, Lucio Malan, Manuela Repetti, la compagna del signor Bondi. Vabbè, fermo lì. C'è la lista lunga, Facce poi nuove. Gasparri, Scajola si è ritirato per sua volontà. Questo è il massimo. Protestano tutti gli scaglioliani del mondo, anche quelli, cioè i consiglieri comunali. C'è una rivolta. Minacciano di non votare PDL. Scajola stesso è arrabbiatissimo. E Gasparri che dice? Claudio Scajola, che da una delle accuse che gli era stata rivolta riguardante il porto di Imperia è stato prosciolto qualche giorno fa. Poi c'è la nota questione della casa, una vicenda che insomma ha portato a una forte perplessità sulla sua candidatura, che poi lui ha sciolto dicendo di non candidarsi. Bene, invece non c'è stato nulla da fare per un personaggio mitologico di questa legislatura. Beh, signori miei, Maurizio Grassano del gruppo Misto, ex Lega e soprattutto ex responsabili Bobolo e Territorio, è quello che è. Buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Grassano, quanto è disperato? Me lo dica sinceramente, molto deluso, molto, molto deluso. Beh, Grassano? Certo che, sì, sono qua. Eccoci. Qua. Non sono ancora morto. No, però certo dalla voce che, sembra di sì. Non sono... Quando uno rimane ferito, soprattutto... Ma come l'hanno trattata, Grassano? Me lo dica sinceramente. Qual è l'immagine che le viene in mente? Sono stato trattato come? Come una pezza da piedi, dai. Decisamente con poca umanità. Poca umanità. Umanità perché umanità devono candidarlo? Ah, poca umanità. Cioè, adesso fra poco ricostruiamo tutto. Qual è l'immagine che le viene in mente? Cioè, adesso lei si sente come un... Che ne so, come uno che... Come una pezza da piedi. Come una persona affranta. Ferita nel profondo. Nel profondo. Ferita nel profondo. Solo perché non è stata ricandidata. Me lo dica subito, Berlusconi, perché le cose devono essere chiare. Berlusconi mi aveva promesso ufficialmente, cioè con una, con, poi vedremo anche in che modo, la ricandidatura. È così? Sì. Sì. Diciamo che è così, ma il punto non è questo, perché vede. Sì. Qual è il chiunque punto? Fa politica è abituato. Certo. Siamo tutti uomini di mondo. Cioè, ai ripensamenti, dice lei, al fatto che, sì, che uno possa avere cambiato idea. Uno dice quello che mi ha ferito, perché tutti capiamo che poi dopo le cose durante il corso del tempo cambiano, quindi sono cambiati i sondaggi, sono cambiate tante cose, sono cambiate lì, ma quello che mi ha ferito è che uno è un uomo perlomeno. Ti telefona, ti dice: guarda, Grassano, purtroppo non c'è spazio perché. Quante volte ha telefonato lei a Berlusconi? Quante volte ha provato a chiamare Berlusconi? Io non sono uno come Papa che mette la tenda davanti a Palazzo Grazioli. Ho chiamato 3 volte le segretarie nell'arco di un mese. E Verdini quante volte? Una volta sola. Sempre la segretaria, dice lei, sempre la segretaria. E che ne so, magari per chiedere un appuntamento. Vabbè, no, ma anche Grassano e nessuno le ha fatto sapere nulla. Dopo lei 3 telefonate a Berlusconi, una alla segreteria di Verdini, nessuna risposta. No. Cioè nemmeno vai a quel paese, non ti ricandidiamo, non ci piaci più, eccetera. Proprio non sono ignorato. Ignorato. Ma è una roba pazzesca, eppure è così una brava persona, cioè Grassano, come un lebroso, adesso ho trovato la definizione giusta. Sono stato trattato come un lebroso o no? No. Lebroso no. Assolutamente no. E beh, quasi. Anche perché io non sono un lebroso. No, ma lo so. No, ma metaforicamente parlando. No, metaforicamente, trattato come uno straccio, diciamo. Diciamo che ci sono rimasto male. Cioè, sì. Perché secondo me una persona, un uomo... Va trattato da uomo. Beh, ma sì, ma poi col curriculum che aveva, insomma, c'è anche una condanna in primo grado per il comune di sulla vicenda del comune di Alessandria. Appunto, con la curriculum che aveva. Bastava che mi telefonavano, mi dicevano: guardate, guarda, Grassano, abbiamo deciso di fare le liste pulite, quindi. Pulite, tu, e poi Hai avuto questa condanna in primo grado per truffa al comune di Alessandria, comune che non può amministrare. Vabbè, intanto comunque. Vabbè, ho capito. Adesso aspetteremo poi l'appello. Come ho detto prima, no, certo, quello i non morti c'è dubbio. Si contano alla fine. I morti si contano alla fine. Intanto lei è morto, mi sembra, però. Adesso si contano alla fine, intanto è morto, però. E che farà adesso Grassano? Cioè, comunque come un animale l'hanno trattata, cioè, no, se non è un uomo l'hanno trattata come un animale, cioè uno con cui non si fa nemmeno una telefonata. Diciamo che... Cioè manco il coraggio, secondo... Grassano, di dirle no, questo è il punto. Sì, ma secondo me una telefonata almeno potevano fare. Una telefonata se non avevano tempo loro, almeno farmela fare da una segretaria. Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Un Grassano, Maurizio Grassano, protagonista di Mille Battaglie in Parlamento, uno degli uomini del 14 dicembre. Mille battaglie. Parlamentari, diciamo. Così. Ma Gandhi ha fatto le battaglie, non Grassano. No, ma perché devi dire mille battaglie? Quali sono le battaglie di Grassano? Io ho detto battaglie parlamentari. Ho detto battaglie parlamentari, per esempio, il 14 dicembre. Tu che hai studiato, dimmene una. Quali sono le battaglie di Grassano? Aspetta, io sto dicendo: Grassano ha fatto 1000 battaglie parlamentari. Ha combattuto per Berlusconi il 14 dicembre, innanzitutto. Cioè, ha votato per il governo. Ed è stato escluso a dispetto di altri. Mi sembra un uomo particolarmente affranto, anche lo si sente anche dalla voce. Valgo meno di Scilipotti, questo dovrebbe dire. Io la combatto da ore. Allora, 800 24 00 24, la Zanzara, Maurizio Grassano, ex responsabili, gruppo misto, ultimi giorni. In Parlamento, come farà a campare dopo, Grassano? Non so. Sono problemi. Dio vede, provvede. Ma come non so, avrà un lavoro, un'attività? No, perché, no? Perché... Il lavoro me l'ha portato via la magistratura, purtroppo. Ma dunque, ma non è che va alla Caritas, no? Ebbene, ho già preso contatti con qualche duno della Caritas. Addirittura? No, dai. Sì, sì. Ma li avevo già presi, magari fiutando l'aria, li avevo già presi precedentemente. Cioè, con la Caritas di Alessandria, dice lei? No, no, di un paese vicino. Di un paese vicino. Tra l'altro lei deve dare pure gli alimenti alla moglie, un sacco di soldi, all'ex moglie. Questo è vero. Quanto? Quella se non glieli do mi denuncia, quindi è più probabile, sì, che glielo dica lì al suo amico Parenzo, lì, sì, che non... Parenzo, che è più probabile che vada in galera per la denuncia che mi farà mia moglie, perché non potrò più passare gli alimenti, sì, che per la condanna che ha avuto in primo grado. Ma scusi, quanto deve dare? 4.000 al mese? Quanto deve dare? Circa. Devo dare tanto. Tanti soldi. Pure lei ha commesso un sacco. Devo dare quello che mi ha condannato il giudice. Lei un sacco, però ha commesso un sacco di errori pure lei. Una volta me l'ha detto, ha commesso un sacco di errori pure lei. Cioè, non si è fatto mancare niente, diciamo la verità. Comunque, vabbè, sono cose passate ormai. Se non avessi commesso così tanti errori, non avrei. No, ma dico con le donne. Lei mi disse una volta con le donne, pure un sacco di errori. Non avrei dovuto dargli così tanti alimenti alla mia ex moglie. D'altra parte, una musa ispiratrice lei ce l'ha, comunque lasciamo perdere anche là, cioè, in quel, diciamo in quell'ambito, in quel settore, dico io. Senta un attimo, ma è vero che lei, oddio, molti con Berlusconi avevano sottoscritto un patto, cioè un patto per la ricandidatura, cioè lei ha qualcosa in mano, me lo dica sinceramente, Grassano. Ma io... Sì, ce l'ha. Cose non voglio parlare. No, però il 14 dicembre, quando lei diede la fiducia al governo o anche dopo, lei ha un pezzo di carta da far valere eventualmente. Io il 14 dicembre, sì, no? L'accordo che ho fatto, l'ho fatto per, diciamo, avere un posto sicuro. Sì. Perché avere il posto sicuro in Parlamento è una conseguenza. Vabbè, per continuare a fare politica, d'accordo? Per continuare. Benissimo, io voglio dire una cosa, lei ce l'ha qualcosa in mano? Per avere dei posti sicuri in Parlamento potevo anche scegliere altri partiti. D'accordo, ma quante telefonate le fece all'epoca a Berlusconi o quelle del PDL? Perché adesso non gliel'hanno fatta nessuna, all'epoca per convincerla quante gliene fecero invece? Tantissime. Quanto? Qualunque ora del giorno e della notte. Addirittura, Incalcolabili. Senta, no, però sono interessato a questa cosa, lei ce l'ha, lei non è uno sprovveduto, Grassano, un qualcosa ce l'ha in mano, mi dica la verità. Ma guardi, adesso di queste cose qua poi dopo... Vabbè, se lei se non dice di no, eventualmente qualcosa c'è. Vedremo, io non confermo e non smentisco. Lo tireremo fuori, dica, lo tireremo non fuori al momento opportuno. Io le dico solamente una cosa, cioè, a me sarebbe bastata una telefonata. Sì. Solo sì. Una telefonata, dal lato umano. Però di questo mi meraviglio molto, perché io so, almeno tutti dicono che il presidente Berlusconi dal lato umano è molto sensibile, quindi capisce le problematiche delle persone, tutto, quindi a me mi sarebbe bastata una telefonata. Scusi, poi dicendo, guardi, Grassano, purtroppo abbiamo fatto questa scelta, non rientri lì, non c'è niente da fare, siamo impegnati. Manca una telefonata. Un giorno vedremo, basta. A me sarebbe bastato questo. Ma lei in banca ha qualche lira? Qualche euro? No, io sono sotto, mi dispiace. È sotto. Addirittura sotto. Adesso inizia veramente l'ultimo stipendio, quando lo prende? Guardi, non lo so, non mi sono neanche posto. Però il problema per uno che va incontro a un disastro, per uno che va incontro a un disastro, come dire, anche economico, con l'uscita dalla Camera, lei mi sembra anche, poi magari adesso la sera passa la sera nella disperazione, nel pianto, eccetera. Però mi dispiace sinceramente. Adesso. No, ti dispiace, tu stavi infierendo prima. No, stavo infierendo perché politicamente, ma umanamente mi dispiace. Ma lei ha paura del carcere? Ma no, io non ho mai avuto paura. Umanamente è ovvio che mi dispiace, lo abbraccio, anzi idealmente. Poverino. Anzi, in carcere si magna, si può dire, no? Ma guardi, anzi, stavo pensando che al limite, sì, se non funziona con la carità, con un cappello davanti alla camera, sì, no, potrei, insultare un... Sì. Finire in galera? Un militare, sì, ma senza fare atti di violenza. No, certo, però finire in galera? Insultare un militare... E se questi non mi portano in galera, dico allora ti insulto di nuovo, così almeno là mangio bene. Scusate, un'ultima cosa, ma perché non si fa dare un assegno? Se volete scherzare, scherziamo. No, ma perché, no? Perché non si fa dare un assegno come le oggettine? Perché, Grassano, perché non si fa dare un assegno come le oggettine? 2.500 al mese da Berlusconi? Magari perché io non sono abituato a chiedere la carità, non l'ho mai chiesto a nessuno. Però una cartuccella in mano ce l'ha. Una cartuccella in mano sempre, ce l'ha. Io ho sempre vissuto del mio lavoro. Vabbè. Ho sempre lavorato. Ancora in casa, il mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda sull'erba. Ogni volta che vedo Gianfranco Fini parlare, adesso mi diranno ce l'hai troppo con Fini, te la prendi sempre con Fini, no, cioè, mi capita di pensare questa cosa qui, che se non ci fosse Berlusconi, di cosa discuterebbe Gianfranco Fini nelle tribune elettorali, nei talk show? Io parlo sempre di tribune elettorali, forse sono rimasto indietro, non ci sono più, ci saranno prossimamente, nei talk show eccetera. L'argomento è sempre Berlusconi, ieri non so dov'era ieri sera, boh, vabbè, è uguale, porta a porta. Da un punto di vista politico io sono convinto di aver commesso un madornale errore quando ho contribuito a far nascere il Popolo della Libertà, perché ho sottovalutato il fatto che Berlusconi usa governare e comandare come sinonimi. Lui comanda, non è che cerca di trovare delle intese. Ma torniamo all'Albertini impazzito, perché l'ex sindaco di Milano, nonché candidato della lista Monti, comunque dei Montiani, del centro montiano alla Regione Lombardia, capolista del Senato per Monti, caro Parenzo, che ridi, è impazzito. Com'è impazzito quello, com'è che la chiami tu l'Albertina? Gabriella, no, citando il fatto che scherzava in passato, Bossi ha scherzato sulla sua presunta omosessualità, per quello che ma come se stavo smentito Albertini mille volte, appunto, dico, Albertini è di provata eterosessualità, ma assoluta, lo sappiamo anche noi benissimo. Ma voglio dire, può uno adesso mettersi su posizioni così grevi? E risentiremo la questione dei gay. Lui è un moderato, perché in fondo Monti è un moderato. Aspetta, che c'entra? Moderato non bisogna essere mica fesso. Oppure beh, ma le ultime parole che ha detto non sono da moderato. Sentiamo quella su Vendola. Su Vendola e l'articolo 18. Il referendum sull'articolo 18, le Brigate Rosse. Ha messo insieme un po' di cose che insomma, adesso anch'io non è che sono così favorevole alla questione dell'avanzata, insomma, al referendum sull'articolo 18. E però Vendola che firma il referendum per ritornare all'articolo 18, diciamo, degli anni di piombo, oppure firma un altro referendum per portare indietro gli orologi a prima della riforma pensionistica, ed è pure contrario alla TAV finanziata dall'Unione Europea, e quella parte lì certo è massimalista ideologica. Guardi Albertini che quella... Avete sentito? Sì, ma risentiamo anche quello sugli omosessuali. Su, risentiamo gli omosessuali. Ma perché dobbiamo condannare o comunque obbligare un figlio a essere necessariamente omosessuale quando potrebbe invece essere tranquillamente eterosessuale? È chiaro che il figlio di una coppia omosessuale cresce in un ambiente che quasi lo obbliga a essere omosessuale. Lo obbliga a essere omosessuale. Ma poi dice, è chiaro! Cioè la frase inizia con: è chiaro che se un figlio nasce in una coppia, com'è? Ma è chiaro a chi, amico mio? Gabriele? È chiaro a cosa? Su quali basi scientifiche? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Parla Cosentino dopo l'esclusione dalle liste del PDL. Contro di me una montatura, ma accetto la decisione. Alfano è un perdente di successo. Berlusconi, l'esclusione di Cosentino e di altri amici è una scelta dolorosa, colpa delle toghe politicizzate, ma a rischio il consenso al PDL. Letta, la sceneggiata sulle liste dimostra che il PDL sta esplodendo. Bersani ridurre la spesa per i caccia F-35, Monti a Berlusconi, non c'è pericolo comunista. Albertini attacca Vendola, vuole tornare al vecchio articolo 18, è nostalgico degli anni di piombo, la replica, argomentazioni volgari e barbari. L'Istat, in Italia pochi occupati, troppi inattivi, 8 milioni di poveri, Rete Impresa denuncia, redditi diminuiti al livello di 27 anni fa. No del Tribunale al ricorso FIOM sulle 19 procedure di mobilità alla Fiat di Pomigliano, Landini trattati come ebrei sotto il nazismo. Prosegue l'avanzata francese in Mali, obiettivo liberare Timbuktu, i nostri inviati nei villaggi appena abbandonati dai ribelli islamici. La zanzarita voce passa in blanco. Beh, ci siamo dimenticati di dire, caro David, che nella lista del PDL in Campania svetta per l'ennesima volta il presidente della provincia di Napoli, che è Caserta. Come no? Cioccino... Caserta. Cincino Apurpetta. Beh, come dimenticare le sue performance nella lingua British, nella lingua inglese. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. Ma non basta, nel nostro paese è in atto una trasformazione legislativa che a breve vedrà nascere 10 città metropolitane. Il mitico World Urban Forum, io lo dico meglio. Al secondo posto in Campania, tra l'altro. Al primo c'è il nostro amico Rotondi. È bella la lista in Campania. Beh, campano, tra l'altro. Sì, campano, certo, Rotondi al primo e Cesaro al secondo. A proposito di rinnovamento, vi ricordiamo che siederanno in Parlamento il signor Giovanardi, il signor Fabrizio Cicchitto. Però tu te la prendi troppo col PDL. Il signor, stai zitto, Denis. Bello però che dico stai zitto. Il signor Denis Verdini. Questo è il rinnovamento del PDL, ma bene, cari puoi, amici. Ma amico mio, non puoi trasformare questa trasmissione in una sorta di tribuna contro il PDL. Certo. Ma stai trasformando... E diciamo qualcosa anche avremo contro il Partito Democratico. Avremo una reprimenda da parte dei del signori della GCOM, del garante. Garante. Ma chi è il signor Garante? Dai, però... No, però voglio dire, diciamo qualcosa anche contro il PD. Perché questa cosa di Bersani che dice che bisogna tagliare le spese per gli F-35 è di una demagogia, è di un cedere il passo alla sinistra radicale che veramente ci vorrebbe Oscar Giannino. Sentiamo Cosentino. Basta! Più F-35! Più F-35! Che danno lavoro anche, tra l'altro, danno occupazione. Cosentino, ho lottato per la mia candidatura e dignità. Potevo tranquillamente, come mi consigliavano di fare, potevo fare il solito comunicato: rinuncio alla candidatura. E invece ho lottato fino alla fine per ottenere la candidatura, ma non per un problema di immunità, perché se avessi voluto l'immunità l'avrei trovata in tutti quei partiti che mi hanno dato la possibilità di correre per loro. Ma... E infine voglio farvi sentire un personaggio, signori miei, poi vi do la parola, vi consegno la parola, vi consegno la zanzara. Cari amici, per modo di dire, ovviamente, Diego Volpe Pasini. Ma ancora, lo ricordi, lei amante? Sì, no, io non sono amante. Lei è amante della signora Volpe, ogni tanto lei lo ripesca. Diego da questo... Volpe Pasini era l'uomo, sì. Era l'uomo che, è l'uomo che per un anno girava intorno a Berlusconi. Lo voleva fare il kingmaker sostanzialmente, esatto. No, di Berlusconi. Siccome Berlusconi alla fine non gli ha dato retta e ha tenuto dentro tutti, lui invece voleva il rinnovamento più totale, eccetera, eccetera. Poi è stato anche un po' allontanato, no, da Berlusconi, o comunque le persone vicine a Berlusconi lo hanno allontanato dal, sì, capo per un periodo. Cosa si è inventato? No, senti, adesso come reagisce. Le liste del PDL fanno... No, non sono amareggiato, sono di più, sono deluso da un cambiamento che era meraviglioso, da un leader ritrovato e dalle liste che fanno schifo, fanno vomitare, cioè le liste del PDL fanno vomitare. Non votate PDL, dice Volpe Pasini, Volpe Pasini! Non bisogna votare PDL, chiunque di centrodestra, l'appello è non votate PDL, non votate Lega, se vogliono votare centrodestra ci sono altri partiti e se no mandino a fare in culo tutti. Questa è una sintesi, no? Una sintesi perfetta. Analisi politica. Siamo qui, 800240024. Eliseo da Roma. Eliseo, il signor Eliseo. Vabbè, perché sì. Come il teatro. Buonasera. Come il teatro. Senta, volevo chiedere semplicemente, sì, al signor Parenzo se, sì, ha mai ricevuto un rapporto orale in vita sua. Se ha mai? Perché credo, se ha mai, scusi, non ho capito, urgente bisogno. Lei è un, sì, cretino, lo sa, sì, Eliseo. Lo so, sì. Lei, no, comunque, ma... cruciale. Però, scusi, ma... lei si crede Howard Stern, ma non è Howard essere... Stern. Chi? Howard Stern, sì, quel, sì, conduttore. Stern, sai chi è Howard Stern? Conduttore radiofonico, sì, molto conosciuto in America, esatto, televisivo, eccetera. E vabbè, pazienza. Le orme di Howard Stern. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Ma lei lo sostiene? Lei invece è semplicemente detto con grande rispetto, bene, per le autorità, sì, civili, politiche e militari, sottomano... un coglione! Va bene, se non avete sotto mano chi vi fa un bel succhione, vi mando la mia amica cinese labbra di velluto, così no, vi divertite. Ma lei è un poveretto, ma lei è un poveretto bagato in testa proprio. Ma lei è demente totale. No, scusi un attimo. Ma che? Signore, guardi che se andiamo a Radio Insulto, a Radio Insulto. Animo. Sì, però capito? Elisa, guardi che vinciamo noi, vinciamo noi. No, scusi, no, poi mi dica qualcosa su questa cinese, bravo, su questa signorina cinese. Scusi, il mio parente è proprio un demente totale. Ma lei frequenta signorine cinesi? Sì, perché non posso. No, perché per sapere, no, per sapere, no, siccome gli dice c'è un'amica cinese che si chiama labbra di velluto e bel succhione ha bisogno anche qualche lei dunque, magari quando ma schifo, la signorina no. La signorina è una prostituta, la signora cinese? Penso di sì. Sì, però fa solo. No, però lo dica a tutti, signore Eliseo da Roma, io frequento prostitute cinesi. Oh, è solo un coglione, aggiungo. Sì, ma certo che noi siamo a favore della figuriamoci. È perché uno che frequenta le prostituzioni è un coglione. No, ma lei quanti soldi lei sborsa a settimana? Ragioni, qua, aspetta, quanti soldi sborsa a settimana? No, me lo dica sinceramente, siamo nel campo della sincerità. Siamo nel momento della sincerità. Poi questa è una radio economica. 200. Quanto? 200. 200 a settimana? A settimana? Sì, ma lei fa solo la guarda di bocca. Ma lei è un maniaco? Ma lei è un maniaco. È un poveretto malato maniaco. Che devi fare? Perché? No, è un maniaco per quello che ha detto, no? Perché no, ma tu sei a favore della legalizzazione della prostituzione? Sì, però voglio dire, però posso anche dare un giudizio sul fatto che uno. Ma digli che è un cretino per quello che ti ha detto. Ma avete bisogno anche voi di un bel succhione. Ma io non ho bisogno di nulla, guardi. Lei ha bisogno di una clinica psichiatrica. Lei ha bisogno di una clinica psichiatrica. I medici ne hanno bisogno. Lei ha sbagliato a chiamare questo. Non è Radio Hard, è Radio 24. No, è anche Radio Hard, però no, Eliseo, vabbè. Scusi un attimo, lei ha bisogno di un signore che viene a portarla e fa un'analisi. No. Sì, ragazzi, credo Western. Ma che c'entra Stern? Quell'altro è un demente nel proprio. Vabbè, devo dare purtroppo la linea alla borsa, purtroppo la linea, non per la borsa, perché starei a sentirla. Stia bene, starei a sentirla per ore. Stia bene. Perché lei mi deve raccontare cosa succede con questa cinese. Prende la solita fialetta. Mi scusi, la notizia di oggi è che Wolfgang Munchau, che è un grande editorialista del Financial Times, per attaccare la Germania di Angela Merkel, ha spiegato come Mario Monti fosse succubo, come si suol dire, della Germania. Succubo o succube? Succubo, dice Brunetta. Ma non si dice succube? È cretino, è cretino. No, scusi Brunetta, perché dice? Succubo si dice. Abbiamo cambiato la lingua italiana, abbiamo fatto. Sei un cretino. Bisogna sveltire tutto, sveltire. Ma capito, quello si sveltisce niente. Succube, non è che si svelti. Ti chiedo, Pelandrone. E sei un cretino, Pelandrone. Non capisci un cazzo. Che pannella che ogni tanto entra. Ogni tanto Pannella si inserisce nel discorso. Io vorrei però risentire. No, ascoltatori di prima, No, un altro mezzo. Io non sentiamo cosa ha da dire. Aspetta, Raffaele Fitto. Cosentino, esempio. Voglio essere spiegato dai magistrati. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Ci sono alcuni pubblici ministeri che ritengono che io abbia preso voti da parte dell'organizzazione criminale denominata Casalesi. Allora io vorrei essere spiegato da questi. Com'è possibile che in un sistema elettorale io vorrei essere spiegato, e questo lo sto chiedendo ai giudici ai quali mi sono rivolto, e ho chiesto il rito immediato. Vorrei essere spiegato. Potrebbe valere qui la massima di Grillo, sui parlamentari bisogna sempre tenerla presente rispetto ad alcuni parlamentari. Sono gente che è in Parlamento che sono psichiatricamente un problema, perché fanno un lavoro che non sanno, pigiano un tasto che gli dicono di pigiare, e la loro professionalità è quella di andare in televisione nei talk show e fare interviste con voi nei giornali. Sono diventato troppo grillino. Comunque l'Accademia della Crusca, mi segnalano, conferma la versione di Brunetta che abbiamo dileggiato. No, io non ho dileggiato nulla perché mi sono informato. Secondo l'Accademia della Crusca. Esatto, succubo succube. Si dice succubo succube. Al quesito è stata data risposta da Luca Serianni nella Crusca per voi, all'interno di una trattazione di più fenomeni. Si riporta di seguito la parte relativa a succubo succube. capito? E alla fine risulta da tutto ciò che si può dire anche succubo. Però forse è più preciso succubo, evidentemente. Se Brunetta lo ha rimarcato così, vuol dire che botta di cultura di Brunetta, cioè no, botta di cultura perché non ce l'ha. No, cioè, no, è un uomo lezione di Brunetta che ci dice si può dire anche succubo. No, perché lui ha insistito, capito lì? Succubo. Cosa ti devo fare? Ora, perché mi avete richiamato il signor Eliseo da Roma? Perché? Ancora quello della cinese? Il cretino? Sì, Eliseo, il cretino. Su, che è successo? Il cretino, sì. Senta. Scusi, ma perché lei mi critica quando le prostitute, quando c'è stato anche Silvio Berlusconi con le prostitute? Non ho capito, perché lui sì e io no. Beh, non è provato, non è provato, il Parlamento deve provarlo. Il 90% degli italiani pensa di sì. Sì, quello è vero. A che ora va stasera? Io non l'ho credito. Questa settimana quando va lei? È già stato sta settimana dalle prostitute o...? No, non ancora. No. Ci scusi, poi... Che giorno è? Mercoledì, venerdì e domenica. Ci va mercoledì, venerdì e domenica. Tre volte? Sempre dalla cinese, la stessa? Sì, da Labbra di Velluto. Da Labbra di Velluto. Ma qui cos'è? 50 euro, evidentemente... Senta, 50... Le posso dire una mia teoria? Qual è la sua teoria? Se la teoria, signor Eliseo? Che io sono... Un cretino, perché i politici abbiano più succhioni dalle proprie vabbè, ma guardi che ce l'ha a prescindere dai suoi consigli, perché? A prescindere dai suoi consigli, guardi che parla li con, seguono lo stesso parla con una competenza, perché penso che il giorno dopo quando devono magari emettere un disegno di legge così magari sono più spensierati, più rilassati, capito? Cioè quindi più sesso con più sesso ci sarebbe più relax in Parlamento. Esatto, più tranquillità, più rilassato, un bel succhione alla sera, anzi la moglie deve dire senti tesoro, domani devi andare a votare, vieni qua che ti faccio un succhione, così dopo domani stai questo meglio. Questo è un malato, lo sai, no? Sì, è malatissimo. Ah, io sono malato di sesso. Beh, no, ma lei è malato, malato in generale. Allora, io non fumo, non bevo, non mi drogo, le odio queste tre cose, però mi piace il sesso, che è una colpa, me ne piace? Vuoi fare una colpa? Scusi, mi piace il sesso. Ah, il sesso. No, perché, ma è assolutamente... ho capito, preferisce che sono un drogato. No, non è che l'alternativa non è che per forza guardi che non è un problema assolutamente cioè, non capisco perché però dice a Parenzo che ha bisogno di quello ancora, che ha detto insiste, cioè, vabbè lasciamo perdere, lo sento un po' abbattuto, dice lei, fuori dalle righe, ma no, sì, ma non fa dei ragionamenti che non stanno in cielo né in terra. Va bene, grazie Eliseo, grazie. Riccardo D'Arezzo, mi raccomando, mercoledì com'è, lunedì, mercoledì, quando è che ci va? Mercoledì e domenica. No, pure domenica. Riccardo D'Arezzo, buonasera. Sì, buonasera. Bada. Allora, io vi volevo dire, ho avuto un amico a Firenze che aveva una radio, sì. L'hanno fatta chiudere perché diceva la verità, no? Sì, quella diceva famosa verità... radio che tuonava contro Renzi, Renzi. No, non parlava contro Renzi, parlava di quello che accade veramente in Toscana. Lui l'hanno fatto chiudere perché diceva la verità. Sì. Poi come fanno a tenerla aperta a dire un monte di stronzato, mi dite? Beh, però è quello, che quando dici stupidaggini ti tengono aperti lo stesso. Infatti l'Italia va male per questo, perché danno compiti troppo grandi per cervelli troppo piccoli. Sì, ma noi non abbiamo nessun compito, nessun compito grande noi, questo è il punto, no, capito? No, voi l'avete il compito grande perché ve lo dà i politici. Lei è una, siccome avevano accusato questo mio amico... che la radio era di razzismo contro la sinistra eccetera. Ma me lo ricordo, voi, me lo ricordo. Voi invece siete, quando arriva la Sant'Anchè, che arriva tra poco il arriva, famoso, voi, cioè, come fanno i politici a venire a parlare con voi? Voi, cioè, che cosa producete voi? Ma cosa non dobbiamo... fate per l'economia? Per ma questo... noi per l'economia non dobbiamo fare nulla per l'economia, dobbiamo far guadagnare soldi. Noi siamo qui per far guadagnare quattrini all'azienda, quattrini, soldi, ma denaro, chi? Denaro, money, soldi. 24, poi, sì, soldi, poi, ha capito? No, soldi. Di dire, quando io mi ricordo una trasmissione, ci fu un signore che intervenì e disse: no, io i politici li ammazzerei tutti. E lei gli disse: è un cretino, un delinquente. Beh, infatti l'hanno pizzicato. Scusi, Riccardo, non so, glielo voglio ricordare, questo signore, per fortuna. Che è un poliziotto della dice provincia di essere un poliziotto. No, l'hanno pizzicato, è della polizia provinciale di Como. Ma non è un'idea, ma non è un'idea, Riccardo, è la polizia che ovviamente ha ricevuto la segnalazione. Molti poliziotti ci ascoltano e li abbraccio fortissimamente, le forze dell'ordine, i poliziotti, i tassisti, tutti hanno segnalato questa cosa, è intervenuta la polizia. La quale polizia ha identificato quest'uomo, questo signore, e lo ha denunciato. perché uno non è che può dire vado in Parlamento e ammazzo tutti, ha capito? È stato denunciato, identificato e denunciato, dunque non è libertà di opinione, non si può dire tutto. Ha capito? No, non si può dire tutto, ma voi fate una trasmissione, dovete accettare quello di Cipulla. Ma infatti mica l'ho mandato a quel paese, ho accettato, nel senso che ho ascoltato. Lei lo fissi, è un cretino. Beh, ma è evidente che per me è un cretino. È legittimo dirlo, credo, no? Sarà legittimo dire che è un cretino o no? No, non lo può dire. Non lo posso dire. Lei fa la trasmissione pubblica, signor Cruciana, capito? Ma che c'entra? Ma se uno dice una sciocchezza? Pubblica e deve accettare quello che gli viene detto. Ma infatti, ho capito, ma chi l'ha detto che devo accettare quello che viene detto? Ma perché l'ha fatto pizzicare questo signore? Ma non l'ho fatto pizzicare io, cioè la polizia ha ascoltato. Siccome lui si è rappresentato come un ufficiale della polizia di Stato, poi c'è una voce, la provincia di Como, hanno fatto delle indagini e l'hanno pizzicato. Dopodiché abbiamo dato il nostro contributo, non le spiego in che modo, i dettagli non sono importanti, abbiamo dato il nostro contributo e sono anche contento di aver dato questo contributo. Cioè, sono contento di aver dato, di aver aiutato la polizia a identificare quest'uomo, perché effettivamente uno che dice alla radio con una pistola, tre armi, una pistola, un fucile e un coltello, la katana, vado in Parlamento e ammazzo tutti, è giusto che sia identificato, almeno identificato, gli si facciano delle domande, se ha un porto d'armi gli venga ritirato. Questo è successo. Ho sbagliato, Riccardo? Non credo. No, non lo difendo, il signore ha detto queste no. cose. Però il signore ha espresso la sua idea. Ma che c'entra? Ma nessuno gliel'ha impedito. Ma nessuno gliel'ha impedito. Solamente che ho dato un contributo per la sua identificazione e sono anche orgoglioso di averlo fatto. La ringrazio. Ed è interessante capire cosa ne pensa delle liste del PDL, che sono quelle più discusse in queste ore, è la realtà. Prima furono discusse quelle del PD con l'impresentabile eccetera eccetera, adesso tocca a quelle del PDL. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensa una persona che è candidata come capolista in Lombardia, ed è Daniela Santanchè. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti. L'onorevole Santanchè. Beh, qui ci vuole un applauso subito. Facciamo onorevole, buonasera. Eccoci buonasera. Qui, eletta, eccola, in Parlamento. Eletta. Ecco, già eletta. Bisogna fare la campagna. Ma elettorale. Che campagna, dai. Non diciamo sciocchezze. Ma è inutile. Capolista in Lombardia 3, ma è matematico. Ma lei può presentare già i documenti in Parlamento? Perché non va subito domani? Vada lì domani. Io invece domani vado sul territorio. Ma quale d'accordo, lei va sul territorio. Vado a vedere le istanze delle persone. Questa è la politica. D'accordo, sono d'accordo. Però è vero che lei può anticipare tutti, siccome ci sarà la fila, poi sa marzo quello che sarà. Vada già a presentare i documenti, una lista bloccata, numero uno, ma quello vale pure per gli altri, non vale solo per lei. Ma cioè, non è questo il mio problema. Chiedete a Monti come mai non ha fatto la riforma elettorale. Beh, ha fatto tutto con decretazione d'urgenza. Se avesse voluto, perché non vi siete messi d'accordo tanto, nemmeno voi. Non volevate cambiare. Era Monti, voi. Il suo governo poteva presentarlo e fare un decreto d'urgenza. Ha fatto di peggio. Ma perché fa schifo pure a lei la legge elettorale, anche se lei è capolista al Porcellum, fa schifo. No, guardi, non è, a me non fa schifo, perché non è il mio giudizio. Trovo che, e lo dico alle donne che ci ascoltano, che la legge con le preferenze punisce le donne, perché abbiamo Il PD ha messo una donna e un uomo, una donna e un uomo alle primarie. Dipende come ma le fai, ci sono le preferenze? No, nelle primarie. Per vabbè, poi scegliere. Dai, le primarie, vabbè. Però loro almeno hanno usato. Ma nel PDL ci sono poche donne candidate? No, ce ne sono molte, oltretutto di qualità, e molte capoliste. Però e questo è un dato importante. E lei è capolista in Lombardia. Scusi un attimo, io voglio dire una cosa. Lei però, onorevole Santanchè, diciamo la verità, aveva attaccato. Innanzitutto voglio sapere una cosa. Lei che aveva detto sullo suo stipendio, a me non serve lo stipendio, no, faccia un gesto, un bel gesto. Prometta qui, davanti alla grande platea della Zanzara, che quando sarà eletto in Parlamento, visto che hanno fatto i grillini in Sicilia, no? Che ne so. Guarda, che io sono molto più avanti dai grillini. E che fa? Che farà? Io quando ero in Parlamento il mio stipendio l'ho sempre devoluto a una comunità, perché non voglio essere mantenuta dagli italiani. Oh, benissimo, quello quindi, prima. Guardi, vi darò a voi il cedolino di chi, tenendolo riservatamente, perché certo, i soldi che certo ti danno, uno decide a chi tutto darli, lo stipendio. E non prima, ha voglia di sapere a chi è come. E adesso? E adesso? Farò tutto assolutamente uguale, perché mio padre, che non c'è più, mi ha insegnato una cosa: che ognuno di noi si mantiene da solo. Dunque, lei dice il mio stipendio anche dagli uomini, però. No, quello per carità. Lei ha un'azienda, si mantiene da sola. E anche dagli uomini. È una donna ideale. Scusi, ho visto molte donne essere bancomat, che credevano che gli uomini fossero bancomat. A me non piace neanche questo. Anche quelle che giravano intorno a Berlusconi. Molte. Cioè, a me, guardi, non non mi interessa questo, io parlo di donne in generale, di principi e non di persone. Trovo che noi donne dobbiamo smettere di pensare che gli uomini siano dei bancomat. Senta una cosa, ma allora lei ci sta dicendo che il suo prossimo stipendio da parlamentare, che è certo lo 100%, darà lo darà... sarò eletta, guardi, verrò da lei e mese per mese vediamo e lo tenete per voi, perché non ho piacere di sapere io chi voglio aiutare. Ma tutti i 12.000? Tutti i 12.000 lei dà? 12.000, quelli che sono. Io li ho sempre dati tutti. Ma tenga almeno 1.000 euro, scusi. No, è perché dovrebbe... Beh, per le spese... Ma no, magari qualche collaboratore, ma si paga magari con i soldi suoi. Certo, l'assistente parlamentare che sarà regolarmente pagato, non come facevano molti in nero, se permettete, quelli credo che sia giusto perché uno strumento del lavoro. E poi il resto tutto in beneficenza. Ma assolutamente. Ma io sono meglio dei grillini. Meglio dei grillini. Io prendo... No, ma io la conosco, infatti. Però io, che ne so, uno ci può avere ripensato dopo tanti anni che rientra in Parlamento. Lei quando è stata l'ultima volta? Un po' demagogico. Fino al 2006. Ma io sono stata, scusi, al governo. No, sì, d'accordo, al governo sì, ma in Parlamento. Lo stipendio lo prende anche chi è al governo. No, certo, in Parlamento, voglio dire. In Parlamento l'ultima volta. Sono stata fino al 2008. Fino al 2008. È un po' demagogica come cosa. Perché come cosa? Ma se uno vuole dare in beneficenza, dai in beneficenza. Perché si dà un'immagine sbagliata della politica. Cioè lei si sente meglio dei grillini a questo punto? Meglio dei grillini che in Sicilia hanno dato 2/3. I grillini sono arrivati adesso, io sono arrivati a qualche anno fa e poi se lei vede, io ho sempre sostenuto che fare il parlamentare non deve essere un posto di lavoro, tantomeno a vita, e credo anche questo di essere coerente, perché io sono entrata nel Parlamento. Ma sarà l'ultima legislatura che lei fa? Ma questo non lo so, adesso insomma non è ancora cominciata, non abbiamo fatto la campagna elettorale, adesso questo non mi sembra. Ci siamo giusto. Portati troppo avanti, però lei è una di quelle che diceva che voleva il rinnovamento totale nel PD. Le voglio far ascoltare perché sono abbastanza cattivo, voglio farle ascoltare quello che lei diceva sul signor... Mi stupirei se lei fosse buono. È il signor Alfano e sul PDL, e invece poi è capolista in un partito che ha fatto fuori solamente, come ha detto Berlusconi, alcuni personaggi perché per avere consenso, cioè per ottenere qualche punto in più dai sondaggi come sembra adesso, e gli altri sono tutti lì. Quelli che lei non sopportava, tutti i colonnelli, tutta la gente che sta lì, le diceva da una vita intorno. Aspetti, adesso le faccio sentire quello che diceva Alfano. Berlusconi ha fatto bene a fare un passo indietro. Sono rammaricata che invece il nostro gruppo dirigente, da Alfano in giù, non hanno seguito questo esempio. Sarebbe stato molto bello che anche loro si dimettessero tutti dal nostro segretario. Sono tutti lì, onorevole Santanchè. Lei poi alla fine ha ceduto. Ma io guardi che dicevo quando in quella circostanza di dimettersi dalle cariche del partito. Sì, però lei li voleva anche fuori dal Parlamento. Su, ma no, cioè... scusi, Alfano fuori dal Parlamento? No, lei ripulisti. Lei diceva Berlusconi fai una cosa tua, lasciali là. Invece poi alla fine lei è capolista del PDL. No, guardi, il linguaggio è una convenzione e io parlo abbastanza correttamente l'italiano. Non il era PDL a lei le faceva schifo, diceva che era finito il PDL. Io ho fatto il tifo perché il nostro candidato e il nostro capo fosse Silvio Berlusconi. E questo, quindi voglio dire, mi sembra di aver incassato, se di vittoria si può parlare, ma soprattutto di vittoria per il popolo del PDL. Almeno questo. E questa. E poi, cioè lei in realtà è lì. Siamo ai fatti. Io ho sempre lei è con Berlusconi, non voi col PDL. Mi siete testimoni che io dicevo che lui doveva essere candidato e quando ancora un po' mi sputavano in faccia. Però lei dice, io sono con Berlusconi e non col PDL. Questa è la realtà. No, questo non è vero. Io sono con Berlusconi, sei capo del PDL. Quindi mi sembra un concetto diverso. Ma insomma, secondo me lei è più con Berlusconi sottile. Che col PDL. Il PDL non gliene frega niente. Di ma Berlusconi, essere sì. con Berlusconi, lui è avanti un passo rispetto a tutti. Ma voglio dire, lei diceva del PDL che era un cancro. D'altra parte l'ha dimostrato con il consenso degli italiani. Da quando è ridisceso... Ha guadagnato, perché voglio dire, Berlusconi ha spiegato perché è sceso. Ha guadagnato, ma io sono preoccupato. Il consenso è aumentato e migliorerà ancora moltissimo. Vabbè, quella era la sua visione. Io oggi dico: noi le elezioni non le perdiamo. Vinciamo, che non significa vincere. Vabbè, vinciamo e Topolino va sulla Luna. Ma non è che hanno offerto anche a Sallusti una candidatura? Questo è interessante. Secondo me potrebbero averle chiesto a Sallusti. Ma guarda, hanno detto tante di quelle sciocchezze che. Questa? Che Sallusti era candidato, che Sallusti voleva andare al Parlamento. No, ma gliel'hanno offerta, io questo dico, gliel'hanno offerta o no la candidatura? Ma io questo non lo so. Beh, come non lo sa, ma non ce lo vuole dire. Ma non credo assolutamente. Ma io sono preoccupato. Perché guadagna di più come direttore del giornale, secondo me, non l'avrebbe fatto lui. Si guadagna di più da direttore. Ma ci sono anche uomini, io credo che Sallusti l'abbia dimostrato, che fanno le cose per un credo. No, non soltanto per un prendo. No, forse ma... è una differenza che a qualcuno spunta. Avere delle donne adesso, così che però difendono il proprio uomo. Guardi, io non dicevo che lui ha attaccato i soldi, dicevo che da direttore del giornale si guadagna di più rispetto al parlamentare. Feltri pure sostiene questo. Che vado a fare in Parlamento? Sono degli straccioni, guadagno molto più io. No, guardi, forse lei, io forse conosco meglio di lei il direttore Sallusti e credo che, le ripeto, ha sempre fatto e l'ha dimostrato anche negli ultimi avvenimenti non piacevoli di avere la schiena dritta e di avere un credo della propria vita e una dignità. No, ma io infatti non voglio dire che la ragione ha quei soldi. Forse potrebbe essere esempio per molti altri. Ma io sono preoccupato adesso. Perché? Perché che se la Santa Chè va in Parlamento, chi dirige il giornale, scusa? Ma che c'entra? Si può dirigere pure dal coso. Ma tu sei di quella scuola lei che dice... Lei invece quella radiolina che ha nell'orecchio, con chi è collegato? Che gli suggerisce quelle battute del capo? No, ma lei chi è che le suggerisce? Lui è rimasto, è rimasto al fatto che lei fa che è lei che fa il direttore giornale. Capito che stupidaggine che lei fa il direttore. Il vero direttore del giornale è lei. Vabbè, ma lasciamo. Sono cose vecchie. Mi sembra anche giusto che Parenzo debba avere delle convinzioni, no? Beh, sì, ogni tanto qualcuno. Scusi, allora, Santa Chè, però mi viene in mente questa cosa. Lei un po' Corona che è scappato, lo capisce? La risponda, che magari è il giornale. Corona che è scappato, lo capisce? Cioè, lo capisca, no? lo capisce, lo si immedesimi un po'. Io sono una persona che sono abituata ad affrontare quelli che sono i problemi, ad assumersi le proprie responsabilità. Sì, però in galera, capito? D'accordo. Lei dice, dunque non ha le palle. Non è il tipo di uomo non ha le palle. No, io non dico questo, io dico che bisogna sempre pagare i conti. Ecco, ma di fronte alla magistratura milanese che lo insegue, non le viene un moto di solidarietà nei confronti di Corona? No, a me in questo caso non mi viene un motivo di solidarietà. No, mi dispiace sempre perché io a nessuno auguro di andare in galera. Potrebbe essere una paparazzata. Non auguro a nessuno innocente di andare in galera. Potrebbe essere una paparazzata. Scusi? Potrebbe essere tutta una mossa pubblicitaria pure questa, non è detto. Ah, cioè anche se poi in realtà la pena aumenta in questo caso, però non si sa, non la si sa mai. La trovata pubblicitaria. Non si sa. Lei darebbe del mascalzone in groia come ha fatto Sallusti? Ma io in groia è un mascalzone, che l'esempio della mala giustizia di chi doveva essere arbitro super partes che invece ha fatto bene a dare del mascalzone, voleva da sempre fare il giocatore uccidendo i giocatori, per cui come si chiama una persona così? Che ne so. Non lo so. Però un meglio baro, in meglio in Parlamento in groia di Cosentino, no? No? Su questo converrà. Ma sa, su questo ho qualche dubbio. E siamo qui infatti con Daniela Santanchè, che è capolista in Lombardia per il PDL. Onorevole, allora, però andiamo, io sono sicuro che lei dice tutta la verità, nient'altro che la verità. E allora, lei avrebbe preferito Cosentino in Parlamento e non in groia, ma lo dica chiaramente perché così è. Questo è naturale. Guardi, io ripeto, per me in groia è il peggio del peggio, è la rappresentazione plastica, fisica, della mala giustizia. Anche estetica, dice lei. La rappresentazione che non ci sono, che lui non era super partes, vabbè, d'accordo. Perché era un arbitro che voleva diventare giocatore, un baro, ma non facendo un baro. La gara, sì. Cioè uccidendo il giocatore per prendere un baro, una sorta di baro. Ma non lo so se era una sorta di baro, una sorta di chi il fine giustifica i mezzi, questo è il problema. Vabbè. Però il suo giudizio su Ingroia, insomma, è anche abbastanza scontato, per carità, lei fa bene a darlo, però è anche abbastanza scontato. Dunque, vuol dire, tra Cosentino e Ingroia in Parlamento, aveva più piacere, no, con Cosentino? Ma guardi, io avevo sicuramente più piacere di questo, cioè avevo piacere del fatto che siccome sono nata garantista e morirò garantista, e quindi mi è dispiaciuto, ma capisco i motivi per il quale è stato fatto ed è giusto che fosse così, che è stato brutto cedere al circo mediatico giudiziario ha rovinato l'Italia in questi anni. Perché vede, è vero che c'è un problema degli inquisiti, ma c'è un problema enorme che è quello degli inquisitori che non abbiamo risolto. Sì, però d'accordo, non lo sapete che problema, perché Sciascia? Perché Sciascia è stato condannato non per Leonardo? Un attimo, facendo un esempio per essere più chiara in quello che ho appena detto. Allora, sappiamo benissimo Ingroia da che parte sta, sì, perché parte è candidato, no, nella sinistra, e quindi il suo pensiero non è che uno diventa di sinistra domani mattina. È candidato con una cosa che non è proprio, cioè è con un cartello civico che porta il suo nome, dove dentro ha imbarcato Rifondazione, Comunisti Italiani. Vabbè, ma come lo vogliamo definire? Di destra? Sinistra, no? Di estrema sinistra. Culturalmente di sinistra, certo. Possiamo dire che culturalmente è di sinistra? Ma sicuro, ma non è un... ecco, ma certo. No, perché se mi smentisce su questo, ma sicuramente... assolutamente ci mancherebbe che... Mentre qualcun altro è accusato di cose gravi. Però non è che è diventato di sinistra il giorno che ha presentato Sì, lei dice, era di parte, era di parte. Andiamo all'osso, Santanchè, amore mio, andiamo all'osso però. No, andiamo all'osso della questione. Hanno sempre criticato i partiti. Meglio Cosentino, era meglio Cosentino in Parlamento di... Non era meglio, era peggio. Ma pure lei si è piegata... Fa schifo che cosa? Ci siano dei PM, perché non è che Ingroia non si occupasse e non facesse... Cioè Ingroia in Parlamento le fa schifo? Le fa schifo Ingroia in Parlamento? È quello che ha portato avanti un'inchiesta dei rapporti e se Forza Italia era nata con la lo dice apertamente. A me fa schifo avere Ingroia in Parlamento, questo è il punto, mi fa ribrezzo, mi fa tremare i polsi, ecco. Perché avere dei PM che, ripeto, sono talmente di parte, accecati dell'odio, che vogliono ammazzare coloro che non la pensano nella stessa maniera, però vede, cioè, voleva ammazzare Berlusconi, lo vuole ammazzare Berlusconi. Non hanno la pistola in tasca, non hanno il fucile in tasca. Hanno un'arma che è micidiale. Cioè peggio dei mafiosi, che è la sentenza politica. Cioè peggio della mafia, peggio della mafia che ammazza, dice lei, uguale alla mafia che ammazza. Uguale a un criminale praticamente. Sta dando del dice penso di parlare, non so, pensare che parlo cinese. No, appunto, no, parla chiaramente, non è che voi dovete interpretare quello che No, però dovete ascoltare, se mi chiamate, quello che ma io qui dico. C'è poco da ascoltare. E praticamente lei preferisce. Ma lei non mi può dire, allora lei ha detto che sta dicendo ma per capire per spiegare a chi ci ascolta, signora Santanchè, qui i furbetti li lasciamo, erano quelli del quartierino, amore mio, voglio dire, capire questo, amore mio perché amore mio perché lei se lo rimangia tutto, perché dice amore mio modo di dire, ma non è un modo ironico, amore mio, che Parenzo mi dica amore mio, ma è una cosa che fa ribrezzo questo, voglio dire, abbiamo capito, fa ribrezzo anche a me immaginare Parenzo, ma è un privilegio che non è che lascia Sallusti, amore mio, è un privilegio che lascia, non vabbè, che glielo dice solo lo Sallusti, lo lascia la sua fidanzata, vabbè, allora volevo capire questo, allora volevo dirle desideri questo, desideri le donne da altri, ma non desidero nessuno, non la desidero allora, però amore, non la chiamare amore mio, era ironico, amore mio, non era ironico, l'hai ripetuto 2-3 volte, era ironico, la signora, l'onorevole Santanchè preferisce avere in Parlamento come avrebbe preferito, anzi avrebbe preferito avere in Parlamento come legislatore, perché il deputato è un legislatore, un signore accusato di cose gravissime, condannato a un bel tubo piuttosto niente, che un magistrato, cioè si sentirebbe più garantita da un uomo rinviato a giudizio per concorso esterno e per essere referente dei casalesi, se sarebbe sentita più garantita così che non da Ingroia, questo lei ha detto, e va benissimo perché è il suo pensiero, guardi, voglio dire, sono assolutamente pari, perché nessuno dei due è stato condannato. Se gli italiani voteranno Ingroia, e io non posso che rispettare come recita la nostra Costituzione, Ingroia come Cosentino sovrano, per me sono assolutamente pari, perché nessuno è stato condannato. Ma ha ragione lei, ma è rinviato. Ma amore mio Cruciani, tu distingui tra due cose, come al solito. Secondo te Cosentino è già condannato? Io infatti mi sarei battuto. Ma Cosentino ha condannato un tubo. Lui pensa. Ma voi siete pazzi, ma Ingroia non ha carichi pendenti. Ma stai zitto, nemmeno Cosentino. Ma siete due. Ma Parenzo, ma senta un po', ma lei chiama l'autoambulanza quando lo vede così? Ma spesso, guardi, spessissimo. Ma io non ho capito, sono uguali. Lo sa qual è? No, è perché è così. Ma perché, uno, ma ascoltami, aspetta. Ma senta, Parenzo, le do un bel consiglio. Mi ascolti. Sentiamo. Sa cosa deve fare lei? Ma dai, tesoro, però. Guardi, ma che tesoro cosa? Guarda, abbastanza per vivere. Sì. Ti candidi con Ingroia. Ma non mi interessa. Ma io non mi... Io la stupirò. Ma non ma mi ha chiesto, mai? Ma io non mi candido. Ma chiesto a Parenzo di candidarsi? Perché io faccio il giornalista, faccio un altro lavoro. Beh, qua è pieno di giornalisti che sono candidati. Infatti, ma deve fare anche come Ingroia. Ma io faccio... Ma non mi interessa Ingroia. Io faccio un altro lavoro. Non mi piace Ingroia. gioia. Ma gli sto dando un bel consiglio. Un bel consiglio, tutti sì. Tutti voi, buono. Poi alla fine siete candidati. Ma non mi piace, io non mi candido. Non parlo di Cruciani, e la stupirò, amore mio, la stupirò. Oddio, quest'amore mio ancora. La stupirò. Non mi piace Ingroia, non mi piace Ingroia in politica. Guardi, lei non mi piace. Come non mi piace che dini in Parlamento? È perfetto per Ingroia. Ingroia è il suo partito. È perfetto. Via, tutti in galera. Però, noi di centrodestra. Ma chi tutti in galera? Tutti via, intanto il PM via la chiave, siamo tutte schifezze. I santi sono dall'altra parte. I santi però, sono però scusa, quando tu intervieni, Parenzo, quando tu sono intervieni tutti questi, quando santi. Tu intervieni sugli indagati, eccetera, la pensa esattamente come Ingroia, non fare il buffone, la pensa esattamente come Ingroia. No. Cosentino? È partito di sì, però, Ingroia. Però io non so se anche lei, come anche lei però onorevole Santanchè dovrebbe invece di far dire no, invece di ascoltare quelle aspetta, invece di ascoltare quelle cose un po' tartufesche di Berlusconi che dice abbiamo dovuto farlo per forza. Lei doveva difendere Cosentino fino alla morte, la candidatura di Cosentino fino alla morte, perché non si come si fa a dire una cosa di questo tipo? Uno, avete difeso fino all'altro giorno Cosentino, adesso per 2 punti elettorali, per 1 milione di voti o quello che è, lo buttate a mare. Io parlando con lei mi sembra in maniera molto chiara. Io capisco l'opinione pubblica, perché vede, è influenzata anche da una certa stampa. Io devo abbandonare la trasmissione. Capisco il presidente Berlusconi che ha dovuto fare una scelta sicuramente dolorosa. Se io fossi stato Berlusconi, che avrebbe fatto, però sì, glielo dico onestamente. Certo, certo. Quella scelta non so se l'avrei fatta. Perché cioè, avrebbe tenuto cedere al circo mediatico giudiziario, ha rovinato l'Italia. Ha sbagliato, mi perché dica che ha sbagliato. Non è che noi facciamo finta che su non questo ci sono ha sbagliato PM che passano le veline e fanno da che sono i passacarte delle procure ai giornali. Quante volte abbiamo visto gente innocente sulla gogna mediatica per anni, chi si ammazza? Sì, certo, certo. Chi gli ha rovinato la vita? Non è necessario andare in Parlamento, non è necessario andare in Parlamento, questo bisogna dirlo. Però è vero che a questo punto Poggio Reale è quasi certo. Se uno è garantista. Poggio Reale è quasi certo, il carcere è quasi certo adesso. Non è condannato al terzo grado di giudizio, secondo me non è condannato e quindi allora, non deve essere neanche comunque vada vada fino in fondo a questo punto. Siccome da quando decade la carica di deputato, così cioè tra pochi giorni quando si scioglie definitivamente il Parlamento in vista delle elezioni, decade dalla funzione di deputato. Allora? Da lì si apriranno le porte del carcere per Cosentino, forse, da quel giorno. Lo dica a Berlusconi, bello. Glielo dica a Berlusconi, perché è Berlusconi che ha aperto le porte del carcere a Cosentino, a lui glielo deve dire. A lui, amore mio, a lui glielo deve dire, a lui. Parliamo di così. Abbandono la trasmissione perché non si parliamo può avanti, di teoremi. Non parliamo di. Sì, ma a prescindere da questo, è Berlusconi che lo manda in galera, è lui che ha perché non l'ha ricandidato. Del carcere, lo capisci o no? Non c'è un fatto corretto. Sì, d'accordo, ma è Berlusconi che lo manda in carcere. È Berlusconi che lo manda in carcere. Ma io voglio dire, guarda Parenzo, che sono i suoi amici radicali che in Parlamento hanno respinto sull'arresto, la richiesta dell'arresto. E lo so bene, anche, anche. Ma lo so bene, ma infatti che hanno respinto, lo so, e ma hanno detto ma io ragiono che con la mia testa. Studiate tutte le carte. Benissimo. E che non c'era motivo che votassero per la perché Berlusconi adesso lo vuole mandare. Ma gliel'hanno detto queste schifezze del PDL. Ma perché Berlusconi lo vuole mandare in galera adesso? Perché lo vuole mandare in galera adesso? Perché vede si è fatto talmente un polverone. Lo so, però questo. Avete ceduto su questo, lei l'ha detto, abbiamo ceduto al circo giudiziario. Con Wanted. Ci mancava che ci fosse la taglia su Cosentino, forse qualcuno degli amichetti di Parenzo l'avrebbe consegnato la testa guardi, per prendere la taglia. Mi basta quello che lei ha già detto. Attenti, mi basta il paragone Cosentino in Groia. Torniamo subito, pubblicità, poi chiudiamo, pubblicità. Quello che state dicendo. Ma io sono attentissimo. Mi basta guardi il paragone. Guardi che io l'avrei candidato perché se fino adesso è stato difeso come perseguitato e non ho prove per dire che è stato perseguitato, dovete difenderlo fino all'ultimo sangue, altrimenti è un'incoerenza pazzesca, è incoerente e soprattutto è completamente diverso da quello che diceva prima il PDL Berlusconi per cedere che cosa? Per prendere 4 voti in più. Ma... E siamo qui per la conclusione con Daniela Santanchè. Allora, lasciamo perdere l'argomento Cosentino, abbiamo già arato abbastanza. Ti informo che l'hashtag Santanchè amore mio Twitter, su Twitter sì, già impazza. Vabbè. Hashtag posso Santanchè solo chiudere con amore una cosa? Mio. Sì. Posso solo chiudere con una cosa? Io voglio solo dire questo. Faccio l'elogio di qualcun altro. Che Ingroia solo 3 mesi fa stava interrogando Berlusconi. Certo. Oggi ha fatto un partito capito che contro Berlusconi Ingroia non si è dimesso dalla magistratura, tiene il suo bel sederino al caldo perché non sa come va a finire, e questo è un altro scandalo. E ho detto che sono uguali perché nessuno una condanna in giudicato. Sì, no, ma questo lo Cosentino non è stato condannato. No, assolutamente, rinviato a giudizio e sotto processo. Scusi un attimo, Berlusconi non è stato troppo buono, e secondo me è stato troppo buono, almeno dal vostro punto di vista, e sicuramente anche dal suo, secondo me, con quelli che a un certo punto erano passati con Monti. Fosse stato lei, avreste, cioè, fosse stato per lei, li avrebbe fatti fuori tutti. Cioè, quelli che a un certo punto hanno fatto pubblico elogio a Monti anche contro Berlusconi, alcuni, tutti i candidati, quasi tutti, quasi tutti. Ma no, tutti direi. Beh, no, quasi tutti, quasi tutti. No. Quelli più visibili, ma sai, sì, Quagliariello, Sacconi, eccetera. Berlusconi è un capo alla responsabilità. Troppo buono è stato? È stato troppo buono o no? No, non si tratta di essere buoni o cattivi, si tratta di avere delle responsabilità. Io credo che Berlusconi abbia tutto bello chiaro e bello in testa, e poi ci sono delle questioni di opportunità. Però la politica impone anche questo. D'accordo, però è stato troppo buono con questi qua. Fosse stato per lei, avrebbe fatti fuori tutti, diciamo. Berlusconi è stato e ha dimostrato di essere un grande capo. Un grande capo. Sarei stata un lo so, capo. Lei avrebbe usato, come dire, la ghigliottina. La ghigliottina. Non avrei usato la ghigliottina. No, ma in senso metaforico. Ma io avrei usato molto l'appartenenza. C'è un calcio nel sedere a quelli che avevano detto Monti è più autorevole di Berlusconi, l'avrebbe dato o no? Sì. Perché l'hanno detto alcuni. Uno troppo poco. Avrei dato anche, insomma, in altre parti. Senta. Anche dove, insomma, il dolore era un po' più acuto. Perché... Senta, cosa fa da mangiare però, stasera? Però questo è interessante, perché in realtà ci sono alcuni che hanno veramente... stavano per fare il salto dalla quaglia, erano pronti, pronti lì. Se Monti li avesse presi, onorevole Santanchè, avrebbero, cioè, sarebbero stati proprio lì, no, sarebbero andati lì. Poi invece a un certo punto hanno capito che non sarebbero. Però pensi adesso come sono accucciati, come sono teneri, come sono buoni. Ma sono andati proprio strisciando da Berlusconi alcuni di questi? Striscia, Secondo me. Secondo, si sono fatti raccomandare pure da... non è che sono lì, hanno tutti quei begli occhioni da cocker, uno come fa a non volergli bene? Ma a chi pensa in particolare? A chi pensa in particolare? Ma chi ha gli occhioni da cocker? Ma chi ha gli occhioni? Berlusconi è molto più buono di me. Quagliariello ha un po' gli occhi da cocker. Perché me ne frega a me dei nomi, mi interessa, mi interessa, ripeto, il principio. Voi cocker, che siete bravissimi, che fate una trasmissione meravigliosa, brava, però voglio dire, su sto gossip basta. Ma che è gossip? Questa è politica, quelli è che andavano con Monti. Ma quelli... non è la politica, guardi, che ma no, ma politica... parla di persone in politica. Vabbè, ma chi quello non poi ha lei... principi da dire, io voglio parlare di principi. Un'ultima cosa, ma lei in Parlamento... Topolino. No, beh, bene brutto Polino, in questo caso, guardi, quelli che volevano andare da Monti e poi invece ma sono tornati con Berlusconi. Ma io ho un giudizio così chiaro, guardi, no, ma infatti, io parlo come mangio. Senta, un'ultima... che mangia stasera, a proposito? Che cucina, Sallusti? Stasera cucino le coscettine di pollo al forno con fagiolini, insalata di fagiolini. Fagiolini, patate e pomodori. Sono Sallusti, a che ora viene di solito? Ingroia. No, Sallusti finisce tardi. Finisce tardi. Direttore. Ma a che ora torna in media in genere la sera? Che te ne frega a te? Vabbè. Ma che te ne importa? Casa che te ne vetro, importa? Ma guarda che lei è proprio del partito di Ingroia. Ma vuole sapere tutti i dettagli della famiglia. PM, ma lei sa che sarebbe un PM, a parte che se lei fosse un PM a me mi mette in galera subito. No. Ma lei è perfetto, c'ha proprio quel certo che tratto. Con le manette la Sant'Agata. Ma lei no, è ma voglio perfetto, dire, voglio ma dire questo. Scusi Sant'Agata, no, ma veramente, a che ora... Ora, no, sessuali, ma questo è interessante, perché sei penoso, la sei. Gente vuole saperlo. In genere, a che ora torna in casa? Ma che te ne frega a te? Guardi, però torna bello. Comunque un'ora dopo quando torna lei, perché lavora molto. Al contrario di lei, non fare un cazzo la mattina. Adesso le 11:30, torna. Lo sa che oggi si è vantato, lei lo sa che oggi si è vantato, Parenzo, di non fare che lui improvvisa e che non fa niente da mattina alla sera? Detto nulla oggi questo. Mi ha detto, io sono un improvvisatore, non studio, non studio. Così ha detto, sono un improvvisatore. Però guarda che è finita l'epoca degli improvvisatori. Infatti, cosa va a fare in Parlamento? Bisogna studiare, cioè. Esatto, infatti. Senta, insomma, la mia storia politica un'ultima che, per cosa. La carità, ho molto da imparare, ma qualcosa fa. No, un'ultima cosa. Sa che le vogliamo bene, sì, scherziamo. Ma molto. Un'ultima cosa è questa. Ma mi dispiace che io in particolare, torni a casa tu non vuoi tardi. Bene per niente. Lasciamo perdere no, questo argomento. Chiudiamo. No, mi dispiace che torni a casa tardi. Devo Sallusti chiudere. La sera, vabbè, ognuno c'ha il lavoro. Posso dire che mi dispiace? Sì, ti dispiace, vabbè. Però io voglio capire una cosa. Se fossi stata fidanzata con un metronotte era peggio. Beh, lei con un metronotte, sì, però non me non lo ce vedo, la vedo molto, neanche con un cassa integrato della Fiom. Comunque. Ma guardi che invece io sono proprio una di quelle donne che ha sempre fatto dell'amore una scelta libera. No, no, beh, ho capito, ma però ma la salta anche mano per la mano. Se Morris, dicevo che era brutto un metronotte perché era via tutta la notte. Ah. Sì. Non ha capito, Parenza era un po' alta. No, ma era l'ambiente. Deve farsela spiegare da Ingroia. Era l'ambiente adesso, sociale. Da Ingroia, sì. Adesso chiami Ingroia, sì, e vedo se gli ma fa perché un lo tratta come un criminale sto Ingroia, come un minus abens? Ma guarda, a me se c'è uno che mi sta proprio sulle palle Ingroia, perché uno che interrogava Berlusconi, che c'è ancora i fascicoli di Palermo nella borsa, che fa un partito contro Berlusconi, magari che non ufficio, si dimette dalla magistratura. Su questo ha ragione. È una roba imbarazzante. Ma l'ha lasciati, magari i fascicoli ce l'ha, su Berlusconi ce l'ha lasciati ai suoi, a quelli che sono venuti dopo di lui, mica se li ha portati dietro per ricattarlo. Mica lo ricatta. Ma io guardi, non lo so, però voglio dire, la cosa pazzesca. Ma in Parlamento lei, accanto a quello chi... tornerà, sì, perché se gli va male, non supera lo sbarramento, tac, la poltrona calda, il suo sederotto. Ma perché voi magistrati non li candidate? E se la prenderà con qualcun altro di noi, giù, via, galera, non importa quello che hai fatto, vai dentro. Scusi un attimo, ma... Curioso lei, che loro non candidano magistrati, solo avvocati candidano loro, solo avvocati del premier, solo avvocati candidano loro. Ma perché, stai zitto un attimo, io voglio capire una cosa, ma accanto a chi non si siederebbe mai in Parlamento lei? In Parlamento, siccome state tutti insieme... Con Ingroia proprio avrei un sito. Vabbè, così ce la farei proprio. Non ce la farebbe. Con Ingroia non ce la ma pure fisicamente non le piace molto. Ma guardi, avrei lo stesso fastidio a sedermi vicino a Monti. Ma è più bello Ingroia o Sallusti? Esteticamente, beh, sono uguali. Se togli la barba, mi sono già pentito di questa domanda. Sono simili. Secondo me è più bello Cruciani. Vabbè, quello sicuro. però scusate, tra i tre sono meglio io. Adesso questo, però, non ci vuole moltissimo. Anche... Come presunto... Aspetti, tra Ingroia e Cicchitto. Poi guardate che per i maschi la bellezza conta zero. È vero, un'altra è vero. Cosa grazie. Che conta? No, scusi, no, per così mi fai una piccola lezione. Ma che tutto conta? Altro. Tutto cioè, altro. È una questione cerebrale. Sì, ma quello è vero. Hai ragione. Lavoro è una cosa di testa. Lei ha ragione. Deve prendere il cervello. Quello è vero, la bellezza non conta nulla. Io vedo delle donne che stanno con degli uomini orrendi. No, questo è vero, donne molto belle. Siete molto fortunati, perché per voi la bellezza è ininfluente. Pensi noi che siamo condannate? Sì. È vero che ci sono donne molto belle con uomini molto brutti. Molto brutti, sì, anche pelati. Lei è ininfluente, ma questo lo racconta la storia. Scusi un attimo, ma lei accanto alla Mussolini si siederebbe mai in Parlamento? Sì, Alessandra, sì, come no, la considero assolutamente una... La Mussolini sì, accanto alla Meloni no, non più ormai forse. Ma perché? Ma perché? Accanto a chi? Accanto a chi non si siederebbe? Gliel'ho detto, Ingroia, Monti. Beh, quello è impossibile tanto comunque. Anche lui credo. L'abbraccio, comunque. A presto. A Monti no, perché vede, lui ha investito moltissimo sulla spending review, soprattutto ha fatto investire gli italiani, perché adesso hanno un costo in più, senatore a vita. Riccardo da Pescara, 800 24 00 24. Non è finita, non è finita. Sono le 20:22, questa sera sono molto carico. E cos'altro molto può capitare io, dopo una serata così? Io ho dei così giorni di grandissima depressione, si capisce, di grandissima depressione. Ti ho sentito domenica sera artistica, adesso, artistica. Voglio rivelare, no, confesso, questo. Questa è una casa di vetro. Voglio rivelare questo. Ti ho chiamato domenica sera e ti ho sentito molto molto depresso. Hai detto che eri stato tutto il giorno a casa con la pioggia fuori, da solo a da casa, solo, a guardare film pornografici. No, film pornografici no, non ti ho detto questo, scusa. Tutto ho detto questo, no, vabbè, tanto abbiamo un po' diffamato, abbiamo diffamato. È stato lì a casa tutto il giorno a guardare soltanto film porno. Non è vero. Infatti è un'immagine schifosa, è vero. Ma non però è vero. Deve essere tutto così. Ma deve essere, scusa, così è, io ho passato. E a me è vero, dispiaciuto. Ho passato tutta la giornata di domenica da solo a casa con la pioggia a Milano. E ho detto, cos'hai fatto? A guardare dei film, a guardare non porno. Dice, guardi, poi mi sono letto tutti i documenti che riguardano Pecorella. No, Pecorella che è Cosentino. Una cosa tristissima. No, Mino Pecorella. No, Pecorelli si chiama. No, non è vero. No, però se eri molto... è vero che hai dei momenti di grande depressione, è vero. Sì. Momenti di grande depressione. Allora mi telefoni e mi dici, amico mio! Chi c'era? Riccardo da Pescara, allora. Ah, Riccardo Schicchi. Cioè, ma non è Riccardo Schicchi, è Riccardo da Pescara. Su, abbia pazienza. Riccardo, dica. Niente, innanzitutto volevo chiedervi chi era quel supervisore che sta vicino a voi. Il che non riesco a vedere chi è, a riconoscere chi è. Ah, il supervisore è un personaggio. È il garante della zanzara. È il garante della zanzara. Garante della... Ah, perché lei è collegato con la webcam. Ho capito, ma no, al computer sono collegato. Sì, ma lo vede bene? Lo vede lo questo? Lo vedo abbastanza bene. Ma lui deve sapere che è ebreo. Vabbè, è ebreo. È un cretino, lo so, cioè, ebreo. Ma non è la sua qualifica questa. È ebreo. È il signor Davide Romano, che è il garante della Zanzara. Senta, poi due cose. È il garante, ma potremmo avere un garante della Zanzara o no? Certo, con due tipi come voi ci vuole il garante. È un garante, sta lì, controlla. È un garante di quelli sa, dell'Agicom, quelli che controllano. No, da un po' che vedo la trasmissione. No, allora, deve sapere che c'è, siamo in regime di par condicio. Di par con una parola orrenda, tremenda, terrificante. Ovviamente io non seguo nella maniera più assoluta le prescrizioni della par condicio, però miracolosamente siamo dentro le regole ancora. Non so per quale motivo. Non abbiamo sforato nulla, siamo in perfetta... No, in perfetta... Siamo gli unici da una parola. Aderenza con le norme che io non seguo, cioè nel senso vado a caso, però alla fine più o meno così. C'è un signore qui accanto, è il delegato dell'autorità per le comunicazioni, viene qui ogni tanto, prende i suoi appunti, prende le sue cose, minutaggio e quindi cose. Veramente un supervisore allora? No, ma non state, sì, ma sì, è la verità, certo. C'è il supervisore della Zanzara delegato dalla legge, dallo Stato italiano, è stato delegato, viene pagato, paghiamo anche la presenza di questo signore, cioè con i soldi suoi, con i soldi miei, con i soldi di Parenzo, si paga questo signore che sta qui a prendere appunti sul minutaggio. A che punto siamo? Tot minuti per... No, se non può parlare adesso. Tot minuti per il PDL, tot minuti per il PD, sì, tot sì. Minuti per questo, tot minuti per questo. Fa un conteggio finale, dice siete stati bravi, siete stati discoli, siete stati degli imbecilli. Ma delle pagelle. Insomma, alla sì. Fine va là e più o meno noi ci regoliamo, capito? Sì, e la sanzione qual è nel caso in cui dovesse... I soldi, amico mio, i soldi. Tanti soldi. Che... Sì, quella è l'unica sanzione che... L'unica cosa che si può fare in Italia è sanzionare con i denari. Siamo commissariati, comunque, questo è il tema. Siamo come l'Italia, come la Germania, lui è come la Merkel, diciamo, cioè, c'è un po' commissariato. È la Merkel, ecco. Di Radio 24. È la Merkel della Zanzara. La Merkel della Zanzara. Vabbè, che voleva dire a parte questa cosa? Niente, volevo dire poi un'altra cosa, rilacciandomi a quello, l'ultima cosa detta dalla Santanchè. Niente, facevo una scommessa con voi, vi do 100 euro se mi trovate una donna bellissima che sta con un uomo bruttissimo che non ha i soldi. Ah, beh, sì, certo. Se mi trovate in questa situazione qua, vi do io 100 euro ciascuno. Cioè, una donna bellissima, no, però non è un uomo brutto senza soldi. Non è il caso della Santanchè, eh? Non è il caso della Santanchè, naturalmente. Una donna bellissima. Non abbiamo dato del brutto a nessuno. Senza soldi. No, io dicevo soltanto che non c'è una donna bellissima che sta con un uomo bruttissimo che non ha i soldi. Sono d'accordo con lei. Franco D'Alessandria, stiamo generalizzando lo stato brado, però comunque Franco D'Alessandria, dica. Pronto, buonasera. Sì. Volevo riallacciarmi al discorso di quel signore con quel nome strano. Sì, Eliseo, il signor Eliseo. Eliseo, ma non ha mica tutti i torti, E poi volevo anche farvi conoscere una teoria di un mio amico, un mio carissimo amico di qua di Alessandria, il quale dice che ci sono tre tipi di uomini che si rapportano con le prostitute. Quelli che ci vanno e lo dicono, quelli che ci vanno e non lo dicono, quelli che le sposano e non lo sanno. E secondo lui nessuno di noi... No, non ho capito, scusi, era un po' sovrappensiero. Che cosa vuole dire? Niente. Gli uomini si dividono in tre categorie, secondo il mio amico. Quali sarebbero? Primo, quelli che vanno con le prostitute ammettono. Vabbè, e quelli che ci vanno e non lo ammettono? Poi? Quelli che le sposano e non lo sanno. Quelli che le sposano e non lo sanno. Vabbè, questa è una battuta però. Cioè, pensavo che lei partisse seriamente, però va bene anche questo. Però tornando seriamente alla questione della prostituzione, che viene sbandierata moltissimo dalla Lega in questo periodo, in particolare da Salvini, devo dire che sono d'accordo al 100%. Poi non è che questa cosa la Lega l'abbia perseguita fino in fondo. Alcuni lo dicono, altri no, altri sono molto legati ad ambienti cattolici, eccetera, eccetera. Però è una di quelle, e soprattutto le entrate, l'altro giorno c'è un articolo molto interessante sul Fatto Quotidiano, credo di Meletti, in cui si dimostrava che in realtà quello che viene sbandierato dalla Lega, cioè le entrate fiscali che potrebbero venire dalla prostituzione, in realtà sono molto inferiori, anche i calcoli che si fanno sulla Germania, per esempio, sono di gran lunga più bassi di quelli che venivano detti da Salvini. Poi, secondo me, bisogna fare lo stesso, cioè magari lo Stato non avrà queste grandi entrate fiscali, ma bisogna farlo per tanti motivi, oltre che per l'incasso, per le questioni sanitarie, per liberare le strade, eccetera, eccetera. Beh, guarda, David, è così, in Svizzera, in Austria, in Germania, sono paesi non... Sì, ma qui non c'è il coraggio di farlo, questo è un paese... Quello è un altro discorso. Culturalmente... Quello è un altro discorso. Cosimo da Ferrara, buonasera, Cosimo. Fermo. Cosimo. Buonasera a voi. Sì, buonasera a voi. Volevo parlare a proposito della questione di Cosentino. Sì. Allora, c'è stata tutta oggi che non si fa altro che parlare di questo, anzi non solo oggi, tutti questi ultimi giorni, ma è venuto a qualcuno il dubbio che Cosentino, al di là, capisca bene, al di là del garantismo, al di là del garantismo, semplicemente, una parentesi, vale per lui come vale per tutti, come sarebbe valso per Tedesco. Guardi, io su Cosentino ovviamente rispetto molto quelli che dicono che è un impresentabile, che non bisogna candidarlo, eccetera, eccetera. Però io mi metto, come dire, io noto solamente l'incoerenza di un partito che fino a un secondo fa, secondo me non è rinnovamento questo, è un finto rinnovamento. Perché un partito che fino a un secondo fa difendeva Cosentino fino alla morte, anche dall'arresto, e adesso per raggranellare 4 voti, perché l'unico obiettivo è questo, sacrifica Cosentino quando l'ha difeso fino alla vigilia del voto, aprendogli praticamente le porte del carcere. Perché l'immagine qual è, Parenzo? L'immagine è molto semplice. Il signor Alfano ha aperto con le porte di Poggio Reale e il signor Berlusconi, non mettendolo in lista, lo ha spinta dentro la porta del carcere. Quello che dice: no, non ci voglio andare, no, devi andare dentro il carcere. Poi vedremo se sarà arrestato. Noi speriamo di no. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go home? Non me moleste moschito. Il commissario del garante della privacy, con cui abbiamo fatto ovviamente amicizia, che non è qui è accanto della a noi, privacy, della... Sì, scusa, della... abbiamo fatto amicizia e dunque ci comportiamo anche in modo scherzoso. Sì. È un bravissimo professionista. È un garante romano. Diciamo. Ci ha detto che questa sera abbiamo un po' esagerato a livello di tempi. E anche di parolacce. No, parolacce che mica controlla quello. Però scherzosamente ci ha detto che non si può dire sempre... Abbiamo detto pochissime, tra l'altro. No, non si può ha detto che non si può dire spesso la parola Sant'Anché. Diciamo, allora, non potete ripetere. La realtà spesso. È questa, adesso, senza infingimenti. Il commissario, quello che noi chiamiamo commissario, ma che è un professionista, uno statistico, viene mandato in giro. Viene mandato in giro random, una cosa pazzesca. Chissà perché è venuto a noi. Però. No, io gliel'ho detto in faccia al garante, al commissario del garante della comunicazione. Cioè, ho detto che è una follia. Noi spendiamo i soldi per mandare gente in giro a controllare. Ma possiamo sentire almeno che voce ma sarebbe hai? Meglio, no. Sarebbe meglio. Lei può per legge salutare, no, almeno no. Dire buonasera. No, almeno. Non può fare nulla, dai. Non forziamolo. Non può almeno fare... buonasera, potrà dirlo. Sì, no, sta qua fisso a guardarci, a scrivere. Abbiamo sbagliato a mettere la webcam, non avremmo dovuto metterla indirizzata lì. Faccio vedere a chi è a casa. Che ha sta roba qua che sembra un contatore Geiger. Dove tra l'altro annota tutti i tempi e le cose che è una cosa incredibile. Vabbè, Carlo da Brescia 800 24 00 24. Bu. Carlo, dica. Ah, buonasera. Volevo dire, a proposito della incandidabilità dei vari deputati e senatori di Berlusconi, però lui ha dimenticato una cosa che... Se lei in viva voce, però si sente poco. Viva voce, viva voce, viva voce, viva voce. No, tolta perché è un iPhone e mi scappa sempre l'orecchio lì. Vabbè, giustamente. Allora, dico che lui ha dimenticato che lui è stato condannato esattamente il giorno prima di quando ha fatto cadere il governo di Monti. Anzi, uno dei motivi per cui è caduto il governo Monti penso che sia quello, no? Cioè quale? Che lui è stato condannato il giorno prima, in prima istanza per il processo Mediaset. Per cui è inutile che lui vada in giro a impedire ad altri che sono anche solo inquisiti oppure per i quali hanno chiesto l'arresto ma non hanno avuto giudizi né di primo grado né altro di non candidarsi, quando lui è candidato e lui è già questa è la grande contraddizione. Cioè si chiede a Cosentino un passo indietro, certo. Mentre il primo dei condannati, certo. Addirittura Berlusconi è più colpevole di Cosentino, se vogliamo stare la cosa. Però come ha detto ieri sera Dell'Utri qui alla Zanzara, sì. Da un certo punto di vista Berlusconi è legibus solutus, si dice, cioè sciolto. Allora, a quel punto è inutile che ne parliamo. Ma no, no, attenzione. Il sovrano per ontologicamente è legibus solutus, cioè lui dice sciolto è al di sopra di tutti, no? Sovrano. Cioè al di sopra di tutti, vuole dire non si può mettere a livello mio e di Cosentino, diceva Dell'Utri ieri sera. Quisque populo qualunque. No. Cioè le condanne di Berlusconi sono condanne perché lui è Berlusconi, insomma, lasciamo perdere. Sono convinto che fossimo in una democrazia dove siamo, ma tutti sì, va bene adesso, io, però, ma io è Berlusconi. quello d'accordo, quello siamo d'accordo tutti, però adesso mi sto immedesimando, mi sto calando completamente nella filosofia dell'utriana. nella filosofia mi sto calando totalmente. Allora, e lo capisco da questo. Lui dice: no, ma Berlusconi, inutile che parlate delle condanne di Berlusconi. Berlusconi è soprattutto, è sopra me, sopra Cosentino, sopra la legge, sopra il pianeta Terra. È l'unto dal Signore. E Garibaldi ha detto che era sulla Terra in realtà Garibaldi, però ha detto è come Garibaldi, cioè Garibaldi, a parte i leghisti, nessuno lo mette in discussione. No? E non è che può andare sotto processo Garibaldi, poi ci andò in realtà. È lì come una sorta di icona, dunque per quello che vale per Cosentino, quello che vale per Dell'Utri, esclusi, non può valere con Berlusconi. Questa sera sono scatenato. Allora? Dicendo che tra l'altro l'Italia è l'unico paese al mondo dove il primo grado non è considerato, perché non c'è nessun altro paese occidentale dove può candidarsi uno che è anche solo inquisito, figuriamoci condannato. Perché il processo penale è lo Stato contro l'individuo, cioè lo Stato italiano ha ritenuto l'imputato Berlusconi non idoneo. Sì, però lo sappiamo questo qua, non mi ripeta. Ma non mi ripeta cose che io già so, già conosco, so tutto. Che noia. Ma è chiaro, lei ci sta dicendo che Berlusconi è condannato. E vabbè, d'accordo, è condannato. Dunque, per l'Italia è condannato, certo, ma lo sappiamo tutti, Carlo. Dunque, lei si stupisce del fatto che abbiano escluso Cosentino e non Berlusconi. Ma come fanno a escludere Berlusconi se decide Berlusconi? Scusi, se è Berlusconi che decide. Se è lui, come fa ad autoescludersi? Vabbè, se ci fosse una coerenza. Ma quale coerenza? Ma quello è il capo. Ma vogliamo dire una parola, grazie. Comunque, Carlo, lei ha ragione. Lei incarna, vuol dire quello che pensa tanta gente. Ma poi, sì. Dunque, non bisogna nemmeno. Ecco, io non è che volevo dirle che lei sbaglia. Cioè, volevo. In tanti questo pensiero l'hanno fatto. Comunque, finalmente la notizia del giorno è un'altra. È la vicenda Mussari, il presidente dell'ANCI. Ma chi se ne frega? Quello se ne occupano altri. Sono Barisoni. Come si chiama la trasmissione? Ma questo Focus Economia. No, Focus. Ah, no, Forum. Focus Economia. Però lo voglio dire, il caso MPE, cioè Mussari che si dimette dall'API. No, ma chi sarà una roba importante? L'API, no, l'API. Le società di Rutelli. Ah, l'API. Dall'ABI, aspetta un attimo, Paolo Trudu. Nessuno di voi conosce, cari ascoltatori che siete qui collegati con noi. Cioè, stavo dando una notizia economica nella radio del Sole 24 Ore e lei chi mi introduce anziché parlare della vicenda Mussari, ex presidente da oggi dell'ABI? Vabbè. Ex Paolo Trudu, ufficio stampa del PDL Sardegna, cioè esponente di punta del PDL in Sardegna. Paolo Trudu, non so se sia candidato, può darsi, ma non credo. Nel PDL c'è puzza di camorra? Che era la frase di Vendola di ieri, no? Sì. Senti come ha risposto. Da voi puzza di frociame. E lei mi ha tolto la parola. Caro signor di becero frociame, caro signor Trudu, lei meriterebbe una cosa molto semplice. Chiamiamolo subito. Molto semplice. Un bel calcio sulle palle. Ecco, da parte della Santanchè, quello che voleva dare prima la Santanchè ai deputati del PDL, ai signori del PDL che si erano messi contro Berlusconi a favore di Monti, concordo, io lo darei al signor Trudu. È di una volgarità, guarda. Ma cosa fa Trudu? Beh, è un esponente del PDL in Sardegna. Siccome Vendola, sbagliando, aveva detto che nel PDL c'è puzza di camorra, odore di camorra, cosa originalissima pure questa da parte di Vendola. Odore, ha detto però. Sì, odore. Ma una cosa di una grande originalità. Comunque lasciamo perdere Vendola. Molto peggio il signor Trudu che ha detto da voi c'è puzza di becero Smells, in inglese avrebbe detto smell of camorra. Smell, no? Dai, Mariella da Trieste, buonasera. Smell. Io vi sento sempre e posso dire che mi divertite. Sì, al di là di questo volevo... Mussari ha lasciato l'ABI. Chi se ne frega? No, dico che Mussari ha lasciato l'ABI. Ma chi se ne frega? Ma lascia queste cose al signor Barisoni, queste considerazioni sull'ABI. Io non faccio considerazioni, do una notizia secca. Vabbè, poi a sinistra allora, sento odore di becero frociato. Prima la Santanchè, e forse sarebbe meglio, visto che parla sempre male della magistratura in questo paese di corrotti, mafiosi, andranghettisti e quant'altro, sarebbe meglio che lei si sciacquasse la bocca e che si ritirasse a vita privata. Quando parla di ingroia, dice lei, quando parla di ingroia. Il paese ne trarrebbe almeno due vantaggi. Uno, che non la vedremo più perché fa venire il volta stomaco. Sì. E due, che si ritirasse in cucina a far da mangiare, che sarebbe meglio. Però, io non la sopporto più. Che faccia a meno di andare al Parlamento, perché nessuno se ne accorgerebbe se lei si ritirasse. Proprio nessuno. Mm. Perché a nessuno le frega niente la Santanchè. Mm. È Veneta, signora Mariella. Ha capito? È Veneta, signora. Però... Prego? No, dico, è veneta lei, vero? Di Trieste, di Trieste. Io sono di Trieste. Ah, no, signora Mariella, c'entra. Grande città, bellissima di Trieste. Bellissima, l'amo, adoro Trieste. Guardi, adoro Trieste. Italo Svevo, è vero, Italo Svevo. Ma che siete stati, mi pare, l'estate scorsa, vero? Siamo venuti. No, noi siamo venuti. Grande città. Una città di confine, bellissima, in cui si mischiano culture diverse. Italo Svevo, Joyce. E la gente ragiona un po', sa come? Con la mentalità dell'Austria. No, è una mentalità di confine che è diverso, non è l'Austria, ma questo è incrocio, parlando di Trieste, incrocio ma, da culture, ben raccontato. Ben raccontato peraltro da Paolo Rumiz, grande collega che ha scritto un libro meraviglioso che è La linea dei mirtilli. Ma che se ne frega? Tu sei basta! Una basta. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Sai chi potrebbe darci notizie su Corona? A questo punto della trasmissione, alle 20.46, quando la gente non ne può più della politica, due palle pazzesche. C'è una il noia, garante. Credo, due ore e mezzo. Il garante sta segnando i tempi in maniera severa. Sono preoccupato. Ci potrebbe dare notizie di Corona un signore che è molto, che conosce bene l'ambiente. Lo chiamano il chirurgo estetico dei VIP, è molto giovane, credo che abbia intorno ai 35-36 anni. Chirurgo estetico di moltissime persone, ma come è normale che sia, molto inserito soprattutto a Milano, eccetera, molto giovane. Quanti anni ha lei, signor Urtis? Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Buonasera, cari. Buonasera. Come sta? Come sta? Avete già detto la mia età, quindi non si dice l'età. Beh, come no? Mica è una donna lei, le donne non dicono l'età. Ma è giovane, sono un chirurgo. Quant'è? 35, 36, quanti ne ha lei? 36 anni. L'età già mia. E già fa il chirurgo plastico a 36 mia. Anni. All'età mia. Capito? Ma quanto guadagna lei, scusi? Beh, molto, parecchio, Urtis. Beh, insomma. Mezzo milione? Con la crisi che c'è, la metà dell'anno scorso. Sui mezzo milione, siamo mezzo milione l'anno, ci siamo? No, meno. Meno di mezzo milione, ma 200 lei è un poveraccio. 200.000 euro all'anno. Ma lei è un poveraccio. Ma che ride, 200.000 euro all'anno il chirurgo? Ma chirurgo estetico che guadagna meno di mezzo milione l'anno, meno di mezzo milione, con tutta la gente che conosce, so. Lei è un poveraccio, Urti, scusi. No, dica la verità. È tutta pubblicità, signori. Ma 200.000 euro all'anno li guadagna, li porta a casa? Ma perché gli devi fare adesso lo screening? Fammi capire. Cioè, ma chi è Equitalia? No. Scusi, Urtis, ma dov'è finito Corona secondo lei? Lei che lo conosce abbastanza bene Corona, mi sembra, no? Sì, molto bene. Guarda, una volta dicevano pure che eravate mezzi, vabbè, lasciamo perdere questi argomenti. Va. Amanti. Sì, hanno detto, hanno fatto. Ma lei è omosessuale, no? Lei è omosessuale, no? Io? Ma questo non... farò outing più avanti. Guardi, Urtis, da noi sfonda una porta aperta, mica perché non siamo della partita, però forse lei lo sa, siamo grandi vessilliferi, come si dice, siamo portatori della bandiera del matrimonio omosessuale, eccetera eccetera, proprio siamo diventati gli idoli assoluti di tutte le feste gay d'Italia. Sì, i famosi frociaroli, come si chiamano? Frociaroli. Ah, i frociaroli, cioè quelli che sono, non sono gay, ma sono... Sono amici. Se la ride il chirurgo, si diverte. Allora, faccia il coming out. Urtis, faccia coming out. Sono omosessuale e me ne vanto. Me ne vanto magari. Sono il fidanzato, ecco. Oh, ma veramente? Diciamo io l'avevo capito dalla voce. Ma perché se sì. È ancora fermo a queste convenzioni, cliché, a queste cose patetiche. Uomo più donna, che noia. No, a parte questo, l'uomo più donna, ma la cosa della voce, capito? Che uno ma scherzo, senti ho la detto voce, una cosa alla storace, ho fatto una battuta alla sì, storace. Quello mi sembra frocio dalla voce. Così no, ti ricordi dire? Frocio cosa disse? Eh? Storace, episodio storico in Parlamento contro Mauro Paissan. Che tu non ti ricordi neanche? No, come no, certo. Non ti ricordi neanche chi era? Ma lo so benissimo. E una volta, era. Dopo una rissa in Parlamento, disse: mi ha graffiato con le sue unghie smaltate. Disse il signor Storace. Forse anche da frocia, disse. No, anche no. Te, in questa, avete sì. Visto che Monti adesso è contro le unioni gay, eccetera. E come eccetera. No, certo, voglia. Ha fatto male. Poi candida i gay. Ti ricordi che adesso ha candidato? Però l'ha fatto De Giorgi, però poi l'ha cacciato. A un certo punto. Ma perché abbiamo. È simpaticissimo questo chirurgo. Urtis si chiama Giacomo Urtis. Urtis come Jacopo Urtis. Sì, Jacopo Urtis però era la O ed era, faceva un altro mestiere. Faceva un altro mestiere. Lettere. Scusi, ma Corona, è simpatico, ma perché lei ha ritoccato anche Corona? Sì, anche lui. Dove? Un po' di botox, naso, vitamine, zigomi, un po' di robe le ha fatte, sì. Un po' sì. L'ha fatte pure lui, non sono riuscito a fargli il botox prima che partisse, quello no. Ma secondo lei dov'è il signor Corona? Ma guardi, io continuano a chiedermi, mi chiamano i giornalisti, eccetera. Io addirittura non lo sentivo da una settimana prima. di quando sparisse, quindi non so. Ma potrebbe essersi rifatto i connotati. Lei completamente. Che è esperto della materia, è un bell'uomo, Corona. Cioè, lei pagherebbe, è un bell'uomo. Pagherebbe però, rifare i connotati. C'è un medico a Beverly Hills che si chiama, che lo chiamano Identity Ancestry. Sì. Dove praticamente lui cambia l'identità delle persone, ma io gli consiglio di rivolgersi a lui. Se vuole proprio sparire dalla circolazione, dice. Eh sì. Ma sì. Lei ha ritoccato, adesso... anche, ha ritoccato anche Berlusconi per caso, signor Urtis? Non posso dirlo di lui perché non l'hanno ancora, cioè non è ancora latitato. Però scusi, se però cioè lei dice solo se sparisse dalla circolazione potrei dire sono ritoccato, però certo. non lasci la cosa non lasci una cosa nel vago, cioè perché se lei se dovrebbe dire no, io Berlusconi non l'ho mai toccato. Berlusconi non ha nascosto neanche lui che già dalle elezioni del 2004 aveva fatto il lifting, il trapianto di capelli. Però mi hanno detto che è un americano, che viene seguito da un americano, o sbaglio? No, diciamo che il lifting era stato fatto da un americano famosissimo, quello che fa il lifting. Ma lei il tocco finale l'ha dato o no? Il tocco finale, la ciliegina sulla torta, la manutenzione l'ha fatta o no? La cosa manutenzione, quella bisogna farla, sai, come la macchina che gli cambi le ruote, gli metti l'olio eccetera, quella bisogna farla sempre. Senta, il suo cliente soprattutto i politici sono convinti che insomma adesso c'è la convinzione che avere un look migliore vuol dire portare ancora più voti a casa, e quindi ecco che tutti si rifanno, diciamo. Ma secondo lei è rifatto bene Berlusconi nelle cose in cui si è ritoccato? Beh, si potrebbe fare meglio, eh? Sì. Si può fare di meglio. Dove bisognerebbe intervenire? Sono sempre in giro, eccetera, questo mi causa magari un stress. Ma lei quanti politici ha come clienti? Tanti. Beh, sia politici di destra che di sinistra, soprattutto quelli di destra sono un po' più egocentrici, un po' più insicuri. Ah sì, sì. Comunque il garante che Minetti, quanti soldi li ha sborsato? Minetti, quanti soldi li ha dato in tutto? Quanto ma lei ha speso? È una mia amica, la faccio gratis. Ah, la Minetti gratis, veramente. Pure gratis, pure questo gratis, certo. Che cavolo, pure questo ma gratis. Ma per coprirmi le occhiaie, quanto ci vuole? A carico nostro Parlamento, Berlusconi ha dato un sacco di soldi e lei pure gratis. Ma se mi vuole, certo, piove sul bagnato. E che paga lei di tasca sua? Nulla, nulla paga di tasca sua, tutte le fortune. Ma se mi volessi, è bello, non deve neanche pagare. Ma scusi, ma chi è che è intervenuto? Chi è? Love of my life. Nicola. Ma se mi volessi togliere le occhiaie, lui ha delle occhiaie bruttissime. Occhiaie, bruttissime, lo dici tu. Terribili. Quanto costa? E anche il garante. Anche le occhiaie bisogna riempire sotto l'occhiaia, perché a volte si vede la trava vascolare, quindi sembrano viola. Sì. E come Parenzo? Un po' di acido ialuronico, un 300 euro. 300 euro occhiaia o tutto insieme? Occhiaia, solo togliere le occhiaie. Sì, ma occhiaie, io ne ho due di occhiaie, quindi 600 euro o 300? 300 tutto, le faccio un occhio, prendo un occhio e le regalo l'altro. 300 euro, vai subito, domani. Ma è mio bello, perché è la fatica. Ma che bello, oscena. Prendo l'appuntamento perché sono ancora in studio. Guardi, tutti, sì, io ho anch'io, dovrei, però io ho il terrore di farmi ma sai che significa se solo ci penso? Ma assolutamente. Se solo perché io insomma non sono proprio brutti, una brutta. Beh, questo lascia dirlo agli altri. Sono un ragazzetto che sopravvalutato. Sì, comunque. Può darsi che sono sopra, però se facessi qualche ritocchino sicuramente sarei magari più, no? Il problema è che ho il terrore, sono terrorizzato. Che devo fare? Io non capisco quelli che si fanno mettere. Ma le è mai capitato qualcuno che dice no, guardi, io ci ho ripensato all'ultimo momento? Sì, tanti. Sì, ci ripenso. Senta, ma il politico più famoso si può dire che è un suo cliente? Uno solo? Berlusconi. No, non si può dire Berlusconi. No, l'ha detto, dai, Berlusconi. Vabbè, la rinvito, Urtis. Io aspetto almeno un altro invito, così parliamo anche degli altri politici. Bravo, era tardi stasera. La rinvito su della Santanchedi e degli altri. Oh, questo è interessante, la rinvito sicuro. Va bene. A domani 18:30, ciao, a presto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.